deserta, però potevamo Aspetta, salvarci. un buonasera, dai. Vedo che faceva tutto, però alla fine ci ha nerfato e quindi Gian, fa un'idea. moriremo tra 12 sofferenze e di Gian, fa fame. un'idea. Allora, intanto, buonasera. Ciao a tutti. Questo è Buonasera. l'episodio. Boh. Che episodio è? Ma porco. Ah, episodio 7. E si intitola L'isola. Ora, Gianfu, puoi ricominciare col riassunto. Dall'inizio. Praticamente, eravamo i maschi, La vedo siamo veramente andati a male. quest'isola perché abbiamo naufragato, capito? No, Come come? No, no, no, no, no, no. Perché eravate sulla nave? eravamo sulla nave, prima della nave. eravamo a casa. Ok. Prima della nave, lo Vai, so. parti. C'era l'aereo. No, non siamo messi all'inizio. Dall'inizio, per favore, inizio della scorsa lezione. Allora, io ero uno stregone. Considera che Jacopo non c'era e deve saperla come se l'avesse vissuta. Sì. Tu non c'eri? E tu stavi? Cazzo, è vero, stavo a Parigi. Che dopo. È vero. Ah, allora devo fare il riassunto per te. Cazzo, mo non capirei niente. È impossibile. È incomprensibile. Conosci quello che mi piace. Quindi praticamente capirà che stiamo sopra, che siamo al top e invece stiamo morendo. Dal mio riassunto pensavo che stiamo benissimo. E Bene, questo scoprirà. comincia. Vabbè, no, seriamente. Ci sono affidato una missione. E, dove si trovava il luogo? Ciao ragazzi. Nuova Zelanda? Dove cazzo era? No. Ciao Fede. Aspetta, vediamo se l'ho scritto, perché non sono sicuro di averlo scritto. Comunque in un posto molto lontano. Però ci ha detto che questa missione era molto delicata, tutto quanto, però se dicevamo di accettarla, ci era tutto pagato. Cioè ci finanziavano, ci davano quello di cui avevamo bisogno, perché comunque era una cosa molto precisa. Lo scopo della missione era seguire o Esatto. seguire un tipo Sì. che è capito, affiliato al male, al professore e al Professore, sì, male. che sta cercando un qualcosa, un ingrediente, una pozione, una formula, una tecnologia, un potere, una Upgrade. moe, per procedere nel progetto Mutate. Esatto. E quindi in questa missione diciamo, abbiamo seguito, cioè, in una nave per arrivare Siete nel in posto crociera. in cui sarà assegnato, una crociera, anzi, per essere più precisi. E durante il viaggio, dopo che abbiamo un po' scrutato la situazione, bla bla bla, mentre c'era una festa, capito? L'unica festa di tutta la vacanza che potevamo La stare prima. tranquilli e godercela. Ci voleva anche provare con qualcuna, bam, vediamo un lampo di luce che colpisce la nave improvvisamente, senza apparenti Cazzo, motivi, ma luce di studiato. un'altra. Ci colpisce la nave, ovviamente la nave tipo stile Titanic tende a precipitare, noi... Per cosa? No, come la soluzione in acqua, giusto? Sì, Precipitando. giustamente. Giusto. E tu perdi i sensi, ma meno male ci sono io che ho fatto ormai anni di palestra tranquillamente con una mano ti sorreggo e ti Sei veramente ti ipotizzato. Poi tipo, enorme, sembra tipo la diciamo, storia di un questo bardo. non è l'episodio, tanto per far vedere. Quando c'è la scena del saggio? E praticamente approdiamo nell'isola che è più vicina, che era tipo a 200 metri. Siccome noi vedevamo che il mare era mosso dietro, ma davanti era limpido, noi potevamo. Andiamo dritti, è il limpido là, che siamo stupidi. Abbiamo scoperto che c'era una Una cazzo barriera di corallina. corallina che ci ha fracassato il gommone. Io l'ho riparato per un po', a fine di, diciamo, sopravvivere, il tempo di, capito, varcare da me, arriviamo in spiaggia. In spiaggia conosciamo, cioè, in sintesi, nella nostra scialuppa ci sono due tizi, una coppia, più la sorella del maschio, mi sa... No, c'è cioè il fratello e Sono due la sorella. cose diverse, esatto. Sì, No. e qua niente, c'è cioè Niente. L'equipaggio te lo dico io. salvataggio non è che ci stavamo soltanto noi, Io mi ricordo di siamo noi, Gianmarco. Fammi l'elenco tra voi. siamo noi, Gianmarco. due della stessa famiglia, Un cioè fratello e una sorella, un maschio e una femmina, sono vecchio. Ok. Ok, fratelli, sì. e un vecchio che è un medico, che questo apparentemente sembra, diciamo, conoscere un po' la situazione, perché ha notato che io ho usato il mio potere per, diciamo, aggiustare il gommone il tempo per salvarci, e ha detto: per ora non farlo sapere agli altri che potresti creare scompiglio. Quinta persona tra voi. No, poi c'è, no, aspetta, aspetta, poi c'è un tizio che ha appena perso la moglie. Vabbè, ma che è morto. Va bene. Okay. E quindi ci sono questi due fratelli, lui molto possessivo nei confronti di lei, e lei è ferita gravemente a una gamba. Okay. C'è un tizio che Marco ha tenuto sott'occhio e che sta sulle sue e che fissa il vuoto ed è un po' inquietante. E poi c'è una famiglia italiana di quattro persone. Qualcuno si è ricordato che nel gommone potevano esserci acqua e provviste? Anche a qualcuno. Sì, è vero. E poi io l'ho ricordato un po' dopo, anche se era già stato successo tutto. Come se prendessi un'acqua e qualcuno ha già fatto e facessi un po'. Esatto, ma... è andata più o meno così. Sempre, diciamo, che non ascolta mezz'ora, poi si sveglia: "Eh, ma sono un ladro!" Però tutto. Sì, è andata più o meno così. E quindi ora siete? Siete nell'isola, siamo nella spiaggia, anzi, ci siamo arrivati, nella, siccome quella è la classica isola con la, con la boscaglia subito dopo, ci siamo messi proprio a limitare la boscaglia perché ho detto: "Rega, se ci hanno colpito con un fascio luminoso, era un grande evento soprannaturale, che è soprannaturale. Il complottare c'è sempre. L'alba boreale, oppure ci hanno attaccato." Sì. Di conseguenza ho detto: "Non ci facevamo proprio vedere alla luce del sole, leggermente." Poi io ho provato a caricare il gioco. Ha provato a citare e io l'ho già nerfato. Comunque, stavo dicendo: allora è notte, e vi riassumo brevemente: siete tutti sulla spiaggia. Voi vi siete messi in disparte col dottore, il dottore sta parlando con voi, la famiglia sta sulle sue, lo stesso il vedovo e l'altro tizio inquietante, mentre i due fratelli cercano più o meno di consolarsi tra di loro. Voi siete un po' in disparte e state parlando tra di voi. Come? Niente. Vabbè, non è Game of Thrones. Vai. Prego. Quindi, ora. Qualcuno di noi ha un accendino per fare un fuoco? No, mi ricordo, ma ricordo che qualcuno di voi ha appena detto che potrebbe tornare a casa a prendere dell'acqua. Magari potrebbe essere utile. Per spegnere. Parliamo, voglio ritrovarmi all'interno di un iceberg. Ah. Va bene, sì, in effetti forse è meglio non correre rischi inutili. Cioè, non lo so, però, cioè, conoscendo il tuo modo di risolvere i cheat, poi ho paura. Hai letto, hai visto il meme? Ibernazione proprio. Come scusa? Hai visto il meme della campagna di Sal? Ho visto il meme, e infatti quello mi ha dato l'idea di non provarci. Lo state facendo una missione pericolosa? Chi è il master? Salla. Abbraccio, tristezza. Fatto. Ok, quindi se no io proporrei comunque di fare un riparo e di accamparci per questa notte. Ma Salla c'è? No, penso che stia parlando il medico. Sì, è il medico. Avevo come se fosse anche il giocatore, cioè il personaggio Salla. No. Avresti già vinto. No. Il mio potere. Oh sì, direi che trovarci un riparo è la cosa più... è l'unica, la cosa più sensata che possiamo fare. Ok. O ce lo costruiamo, non so voi... Possiamo fare tipo con le palme, i tronchi, sulla testa. Io mi sveglio, immagino, non lo so. Sì, sì, tu sei sveglio. Ok. Ciao, yeah. Devi segnarti non so quanti punti fatica e non so quanti punti ferita. dopo vediamo, perché sono noi due restanti, che sono i miei brutti. Ma non ha detto? No. Arbitre? A me. Non puoi davvero. Quindi. Io ovviamente non vi posso aiutare, a una certa età non riesco a sollevare pesi. Magari qualcuno di loro però può aiutarvi, non so, il tizio lì con la sorella. Intanto io provo a medicare la sorella e voi lo tenete occupato. Quale? Il fratello lo fate lavorare e vi dà una mano. E intanto io provo a medicare la sorella perché ho visto la gamba e... Come Marco? A che punto eravamo del viaggio, più o meno la nostra posizione in generale, non dico precisa, ma... Ah, erano passati tipo 2 giorni, neanche. Ok, sulla rotta per? Aspetta. Giusto per avere un'idea di dove... Da 2 giorni si è allontanata da Mombasa in Kenya verso le Seychelles. Dove siamo? Okay. Ovviamente con la mondo. Vabbè, io provo a chiedere anche a T5 se ci dà una mano a costruire qualcosa per passare la notte. Tira sul sociale. Arrivo. No, no, ok. Ce l'ho qua l'app per i dati. Io devo aprire l'ultimo. Senza capire una cosa. Grazie, ma sei? Lui ti guarda come se tu fossi una persona, un alieno. Ti fissa così. Si volta e cammina verso la boscaglia. E cazzo l'hai fatto di fatto? Perché non prendi il radio? L'ho convinto. L'hai convinto? No. Ma posso dire che hai fatto? Vabbè, magari è particolarmente un mezzo di merda. No, magari se facevi uno ti picchiava. Ma sai che c'è un D6? Ti farò fare difficoltà 8. Però sai che c'è un D6? Sicuramente basterà. Magari se facevi uno ti picchiava a sangue, cosa ne sai? è una possibilità da non escludere, in effetti. Grazie, sono del punto psiche. Vabbè, allora io mi approfitto verso la boscaglia con sto tizio e cerco di raccogliere un po' di roba, rametti, palme, per... Almeno sappiamo nel caso del sonno, sappiamo dove iniziamo. Vedi che il tizio ti segue? Ma in realtà non fa niente, cioè ti segue tipo zombie. Ah, vabbè, tipo zombie o è uno zombie? No, tipo zombie. Ottima domanda. Fissando il vuoto, ti segue e basta. Niente, ma Iago ha toccato tutta la gente fino a Dio, ti sentiva qualche potere. Cos'è tipo il mio animale domestico adesso? Sì, tipo un paperotto. Tipo Dobby. Ma c'è una famiglia. Io faccio l'errore di chiedere a Jump cosa è successo. Vedo una spiega, immagino. Okay. Dai, te la spiego abbastanza bene per essere Jump. Okay. È vero, è stato bravo. Ho riassunto. Non so per quanto bene in game. In game non capisci un cazzo. E poi, una volta che diciamo che ho fatto un attimo il fondo di azione, com'è? Ah, io vado un attimo in panico perché sono su un'isola non disabitata, non c'è un bagno, non c'è niente, quindi questo è ho triggerato la mia obligation, Salla, giusto per intenderci. Vabbè, ma non vi preoccupate, avrete questi problemi tutto il prossimo giorno. Tutto il prossimo giorno avrete tutti questi problemi, quindi tranquilli. Okay. Tra cui no, mangiare, però... bere. Io però specialmente cioè prima o poi troverò una scusa per toccare chiunque in maniera molto furtiva. Da quando sono schifo. cioè per, appunto per provare ad attivare o disattivare qualche potere. Cioè lo fai o lo dici tanto posso per attivare? Cioè posso, scusate, mi stavo facendo una cosina. O intenzionalmente attivare un potere invece di disattivarlo? No, quello è un po' difetto, quello è... No, difetto... Allora, è notte, è freddo, è buio, prima cosa da fare è accendere un fuoco. Esatto. Sì. Quindi, chi c'è di utile nei dintorni? Scusami, ma fa freddo? Salva. Non particolarmente. È tipo fuoco comunque acceso, riscalda non solo il corpo ma anche l'anima. Siete un po' mi dici. Tra l'altro, ci dobbiamo spogliare prima di tutto. Perché vestiti freddi. Io ho guardato molto Bear Grylls, diciamo, ai tempi quando ancora era su, sulla televisione. Quindi, tipo, preparo dei regnetti con un po' di sterbaglia, così un po' d'aria per accendere il fuoco. E provo a accendere il fuoco con un po' di pietre, un po' di cose. L'acqua di mare per bonevo. Va bene. Nessuno ha poteri utili ad accendere fuochi, vero? No, ok, stavo ripensando. Jacopo, tira su mente. Posso dare una mano? Si sì, puoi dare una mano. Ho fatto 3. Ci perdi un po' di tempo, tipo un'oretta, perché non ci riesci. Ti frustra un sacco sta cosa, però alla fine riesci a accendere il fuoco. Questa oretta gli altri cosa fanno? Io vado a vedere di acqua. Scusate, se ci sono sorgenti d'acqua. S4 più il web. Abbiamo detto che non c'erano, c'erano provviste sulla scialuppa di salvataggio, lo sbaglio. Sì, ma credo si è segnato qualcosa. Se... Sì. Basta che sì, dovrebbe segnarlo, aspetta, controllo. E per quanto tempo? È quello il problema. Sì. Se bastano per 2 giorni. No, cioè... mi sembra che era tipo 5 giorni per 10 persone. Perché è così che funziona normalmente questo? No, grazie. Mio. Perché è così che funziona? Beh, allora è che ci prendiamo all'ultimo giorno. Non avete mai visto Arrow? Che lui è rimasto, capito? Non, vabbè, io vado lo stesso. Non. Il punto è che se, l'importante, la prima cosa da fare quando si naufraga è sopravvivere la notte per vedere se intanto arrivano dei soccorsi. Poi dopo... Ma non avete visto nudi e crudi? Io sì, quindi so perfettamente come muore. Poi dopo si penserà a ripopolare la terra, magari. Ok, stop. Allora, Gava, hai detto che vai a cercare delle fonti d'acqua. Quanto ti allontani e da che, in che direzione? Allora, ti spiego, la spiaggia si allunga sulla destra e sulla sinistra, mentre dritto è la boscaglia. È dritto? Quindi ti immergi... Scusa, che tipo di boscaglia, se posso essere... Se posso che iniziare un po' a accettare. Che tipo di boscaglia? Tipo tropicale, diciamo. È una foresta tropicale parecchio densa. Sì, anche le piante che contengono tanta acqua, cioè sorgenti d'acqua in generale, non solo fiumi o... Cioè. Sì, io gli dico, non andare nella foresta di notte, per favore. Che non consiglio, dopo ma questo consiglio piuttosto aspettiamo senza una torcia non posso andare in mezzo alla boscaglia al buio perché cadrei dopo un metro. Però io ma non ha ancora acceso il fuoco perché ci mette un'ora. Io ho una torcia elettrica, io c'ho la mia borsa. Allora buoni, di che? Mi sono preso la torcia elettrica non funziona. Ah, che cazzo, che stai andando a fare? Scommetto che non te lo chiedo neanche, giusto per provare. I nostri cellulari si sono salvati? No, cioè si sono salvati ma non funzionano. Non funzionano nel senso, non hanno campo o sembra che ci sia qualcosa che interferisce? Non si accendono neanche. Che cosa? È come se fossero tutti tutto ciò che è elettrico è come se fosse scarico. Ok, molto interessante. Questo è molto da Lost. Perfetto. Vediamo un fumo nero in lontananza, giusto per... Quindi sia dispositivi come cellulari, sia le trasmittenti a puttane. Cioè... Allora, non funziona l'elettricità. Jacopo, Edo e Marco mi hanno già detto cosa fanno. Ditemi, gli altri, i rimanenti, cosa fanno in quest'ora, due ore? Io parlo, cerco di parlare con tutti coloro... Cioè, con tutti quanti, e dire ragazzi, il classico, svolgiamo le task e vediamo cosa abbiamo che possiamo contribuire. Tira su sociale. Mi dai un bel D8 cortesemente? Quel D8? C'ho il D8. C'è ancora, io so farlo bene. Ma perché? Non ci crede nessuno, tutti i commenti che ci siamo. Nessuno è inevitabile. Ha fatto 8, credo io. Ha fatto 8, top! Tira il dado da 8. L'ha fatto, cazzo, qui! L'ha tirato sulla sua app! Facciamo gliela va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, allora. 10 punti. Il tizio inquietante sta seguendo Edo. Il medico dice che... Aspetta, vado a vedere. Gli aggiungiamo, per fargli accendere Skype così non diventa tutta la scena di odio. Io devo accendere Skype, non devo più, ok? Allora, il bambino degli italiani possiede solo un videogioco che non funziona. E la ragazza possiede un cellulare che non funziona e un diario e dei trucchi. Dei trucchi? Sì, la madre per passare la notte. La madre ha una borsetta e fa vedere che dentro ha un cellulare e che ha dei vestiti. Il padre è molto restio a farti vedere il contenuto del suo zaino, perché ha una telecamera, dei documenti, dei soldi, un binocolo e un cellulare. Figo! Aspetta, prima del binocolo, camera. Soldi e la camera, poi documenti, Gianfè, una serie di documenti, soldi, ho capito, ok. Documenti che mi fanno capire che è italiano, si chiama Antonio. No. La ragazza è veramente stremata ed è vestita solo molto leggero. Oh, vedi che la gamba sta molto di merda e ha un cellulare e un cappello. Gianfer riesce a vedere qualcosa dei documenti del padre? Perché è buio e te l'ha fatto vedere così al volo, è una carta d'identità italiana. Ah, documenti inteso nel senso di documenti d'identità, non sì, su cartelle, sì, sì. File o robe del genere. Ah no, ok, perfetto. No, ho capito anch'io documenti. Sala, scusa un attimo la rottura di palle, puoi aggiungere anche Jacopo la chiamata? Sì. Non avevo lo sbatto di rifare la scena di OBS, scusate. D&D. Ecco. Occhio ai microfoni, audio e... Perché non sono connesso? Gli è seccato i microfoni di te in culo. Sì, ok. Come? Attacca la webcam. Perfetto. Ok, scusate. Il dottore, anche lui, ha solo un portafoglio e basta. Siamo live anche su YouTube. Ciao. Porco. È crollato, Jacopo? No, cosa? No, c'è. Ci sono. Perché non vedo? 4? Perché non vuole... Ah, ok, scusa. Ah, mi è crashato a me Skype. Ok, easy. No. Ciao. Ok. Luca e Gava non ho capito quanto ti allontani, quindi no, alla fine rimango un po' sulla spiaggia perché hai detto che è già sera. Sì, no? è notte quindi accetto il consiglio molto intelligente di Marco di non allontanarmi troppo e di non fare casino dato che è buio e potrei morire inciampando in un buco di 4 metri. Ok, quindi fai altro o non ti muovi proprio? No, fai giusto nei paraggi, basta. Okay. Sulla spiaggia. Allora, io, vabbè, già anche un attimo ho radunato le persone, però per il resto del tempo immagino che siano a gruppetti come ci hai descritto tu. Quindi io passo il mio tempo a provare, tipo a... vado dalla famiglia, parlo con i bambini, chiedo come stanno i bambini e comincio a socializzare, perché se finisci in una cosa in cui tutti ammazzano tutti mi voglio proteggere, capito? Quindi faccio il carino che è piacevole con tutti. Dico, oh, tutto bene, serve qualcosa, capito? Allora, il fratello si chiama Johnny e ti dice che di andartene via, che stai dando fastidio a lui e alla sorella. Oddio, sto per reagire malissimo. E come Jeff, no, perché non ti piace? Vabbè, chiedo scusa, me ne vado dalla famigliola. La famiglia si chiama Ziveri, sono italiani e sono... In questo momento non hanno molta voglia di parlare, però ti dicono quattro menate, così, tanto per parlare. Ziveri? Sì, Ziveri. Il tizio da solo si chiama Owen, vedi che sta piangendo? Sì. E continua a ripetere come farò senza mia moglie, ormai è finito tutto. Non ha più senso vivere. E continua a piangere. Mi allontano tipo camminando all'indietro perché... Ok, passa un'ora. E avete acceso il fuoco. Mentre è ancora in alto mare. Nel senso che da solo ci sta mettendo un botto di tempo per fare le cose. Scusa, ma il tipo non mi aiuta per niente? No. Cerco di dirgli dai aiutami, aiutami. Lui l'unica cosa che fa quando lo inciti è allontanarsi di più da te. Gli stai simpatico. Allora, a voce bassa dico, ma perché li simpatici tutti a me? E poi basta. Continua a lavorare come un disgraziato. Ok. Devo avere fatto il piacevole, cioè il piacente e mi ricoverso dietro. Ok, tirate tutti e due su fisico. Tutti e due? Fisico. No, tutti e due chi? E Luca e Edo. Ah, ok, pensavo ce l'avessi come. Uno e uno sei. Ok, sei. Nonostante tu Edo sia molto impacciato e molto rincoglionito, Luca gestisce la cosa molto bene. E dopo tre ore di lavoro riuscite a creare una sorta di riparo con delle palme, una cosa molto così, che durerà forse un giorno, forse. Se mi sono sbagliato. Comunque ho scritto solo cibo per 10 persone. Ok. Ok, direi che il dottore si avvicina e fa forse meglio riposare. Grazie del vostro sforzo. E magari domattina ci possiamo concentrare a sopravvivere. Imparando a sopravvivere. Ma questo è vecchio? Il medico, sì. Ma non era zomboso? No, lo zombie dell'altro, quello che stava arrivando, aiutandomi a fare la capanna. Penso fosse... No, cioè... Questo è un altro ancora, non vecchio, non il depresso, non la famiglia. Questo è stronzo e basta, non fa niente. Okay. No, scusate, avevo perso uno. Vabbè, io dico al dottore, sì, forse è meglio riposare, magari domani mattina riusciamo ad organizzarsi un po' meglio, siamo tutti sconvolti fisicamente, okay. Psicologicamente. Quando... Se ho un attimo di tempo per parlare da solo con i miei... compagni d'avventura, nel senso solo con Jacopo e che se avete bisogno di spazio. Ok, dico, non so perché, ma il dottore non mi ispira molta fiducia, secondo me nasconde qualcosa. Volevo giusto informarvi delle mie sensazioni. Non ho avuto tempo di non fidarmi o di fidarmi di qualcuno, non so proprio. Ma noi sappiamo che interagito con Junk il potere, non mi ricordo. Sì, io non gli ha detto nulla, cioè nel senso non è che ha iniziato a fare casino, quindi secondo me è una brava persona. Già il fatto che conosca dei poteri e degli heroes ci deve far intuire qualcosa. Bisogna ricordarsi che noi eravamo sulla nave perché sapevamo che un membro dell'organizzazione del professore era sulla nave. Per cui già uno che conosce i poteri fa già pensare un pochino, forse potrebbe essere lui, chi può dirlo? Ma chi è quello che c'è poteri? dico solo di stare attenti con lui e con gli altri, non possiamo ancora fidarci di nessuno in particolare. Se non sappiamo la persona che lavora per i professori, quello è il punto. E dobbiamo ammazzare il fratello, guarda. Nemmeno del dodicenne, quanto ne sappiamo, potrebbe essere un altro travestito. Ma ammazziamo tutti a Potrebbe essere anche un altro sopravvissuto. O potrebbe essere morto. Assolutamente. Dicevo, non possiamo fidarci nemmeno del bambino, potrebbe essere un nano travestito. Sì. Il bambino è facile di tutto, c'è il bambino... Edo, vai ad abbracciare il bambino, vediamo. Però stavolta per piacere il bambino mi metto una cintura di bombe qua, appena mi pugnala mi sta tutto, esplode tutto. Aspetta, qualcosa di male non c'è. Si deve dire quindi. Ah, quindi ok, perfetto. Allora, ok, quindi? Non ti senti neanche le altre puntate, che delusione. No, quelle D&D ancora non ho visto per niente. Ma lì ho sentito, cioè, non manco tutte. Manca l'ultima che non c'è più. Gian, per mi dici un attimo cosa hai trovato di utile? Cosa hai trovato in generale delle persone? Cioè, che... Non c'è la droga, se quello che stai cercando. Visto? No, quella serve a Marco. E grazie per l'informazione, poteva infatti essere utile per tirare sul morale della gente. Che... Figa! Questo è Marco che ci vuole la droga per l'opera di ingaggiare. Mi sta Gura. Quindi? In sintesi, un cazzo. No, allora no, ci sono alcune cose. Ci sono tipo una signora che tu sia una signora. La tipa che aveva tipo dei vestiti che potremmo riutilizzare, non so come, tipo tende improvvisate. Poi abbiamo un'altra che c'ha tipo un binocolo. È grossa questa tipa. Poi c'è sì, è grossa. Ma... Abbiamo un binocolo che è tipo una balena. Ma non ha una valigia, cioè, non nel senso ha un vestito di ricambio. Nella 2018 il gommone lascio preso da allora il gommone l'ho più o meno circa agganciato a uno scoglio per non farlo portare via la corrente. Non c'era una vite trasmittente, qualcosa là, niente. Che io cioè io non l'ho trovato in casa. Sì, ma anche fosse. No, ma qualcosa che riceve un derato, qualsiasi cosa. Fosse elettromagnetiche che hanno colpito la nave hanno praticamente utilizzato un qualche tipo di oggetto. Quindi quando Salla prima di partire gli ho detto Salla, possiamo chiedere allo staff di darci un cazzo di telefono satellitare visto che andiamo in un posto di merda dove non c'è un cazzo di niente? No! Ma tanto si non può anche perché tanto deve... Non so se ne sei accorto Giampe, ma sembra che telefoni, radio, qualsiasi cosa di elettrico non funzioni su quest'isola. Ma io voglio sapere se non funziona perché si è rotto o non funziona perché non è bloccato. Esatto. Allora, Salla, io tecnicamente ho conoscenze elettroniche. Sì. Wow. Potrei capire se... Sì, col tester che hai nelle mutande. Arrivo no, nel senso, cioè, se lo vedo, se sembra, se capisco se è entrata dell'acqua o se è qualcosa. Non è entrata dell'acqua, sembra che la batteria sia morta. Sì, però lo capisci, io ti dico, mentre lo fa, sicuramente lo farà lì, però... ma secondo me, visto che è successo a tutti... io infatti voglio provare, infatti lo stavo per testare col mio potere, a vedere se... potenziando l'oggetto. Se potenzi una batteria rotta diventa rotta più grande, no? Se scarica e scarica. Puoi provarci, tira. Io posso provare a passarmi la batteria del tuo cellulare che proviamo. Ah no, tu hai l'iPhone, è vero, scusa. Vabbè. Tirerò. Il mio non si toglie. Non è un iPhone. Vorresti che lo fosse. Vorrei. Allora. Non so lo sciopo. Poi vedi. Quella stanza. Quella nuova. Bravo. Quindi sto. Devo lanciare, ma non so cosa. Controllo, scusami, hai ragione. Controllo, ma sì. Come tutte le altre volte aggiungerei, ma. Poi c'ho soltanto un cazzo di disegno in sociale, quindi più di tanto. Roll 4 mi sembra un'ottima cosa. Fai un tiro di mente pure, che cazzo. Oh, per, oh, finché tu non fai un tiro di merda, lui ti fa tira riflessi. Sarà giusto. Sei, ho fatto 6, 4, 6. Ok, senti che non funziona. Cioè, hai trasformato il tuo cellulare in... in un telefono satellitare Apple. Appena brevettato, probabilmente. Sapevo che... un iSatellite. Ma non funziona. Vabbè. E la cosa ti stava facendo incazzare tantissimo, come quella volta in cui hai picchiato Jacopo. Però ti stai trattenendo abbastanza bene, non ti viene da picchiare Jacopo di nuovo. Wow, figa! Vieni... sì, figa, non so dirlo più, figa. No, cioè, mi sento molto tirato, dicendo, come il mio potere non va? Di più potere! No, il potere funziona, però non si accende, cioè non funziona l'oggetto. Quindi dico, cavolo, se ne manco col mio potere, riesco... ad appicciarlo. Io comincio a fare conoscenza degli altri, perché immagino che non mi abbiano conosciuto bene quando ero svenuto. Io vedi Alberto, guarda che il fratello di quello è stronzo. Se risponde male per te, io penso che cioè, ci siamo scambiate le informazioni che abbiamo ottenuto, ci siamo presentati tra di noi. Io volevo giusto informarvi dei miei dubbi sul dottore e degli altri. Sì. L'unica cosa che imparate è che il tizio psicopatico si chiama Vasili. Vasili. Un nome così è ovvio. E basta. Le altre informazioni sono più o meno quelle che ha detto. Ma se non parli, quello che hai scritto io o quello che ha messo moglie? Quello io non mi fa. Quello scritto io. Sì. Da chi lo scopriamo che si chiama Vasili? Non da lui, immagino. E no, non da lui, però ve lo dice il dottore. Non mi piace proprio il dottore, c'è qualcosa. Scusa, dottore, professore, siamo scambellati. Comunque, io vado al dottore, cioè, prendo il dottore, ci parlo un po' in disparte. Figliolo, è ora di riposare, però. Beh, il dottore come si chiama? Scusa, il dottore chi? Il dottore si chiama, ve l'avevo già detto, e si chiama, ti prego, Joe Smith, ti prego, tanto per andare la cosa. Vabbè, è il dottor Schwarzschild. Schwarzenegger, sì. Dove vive? Dentro un buco nero. È tedesco. È un dottore, vive in un buco nero, troppe coincidenze. Non mi piace. Tu che hai studiato tedesco, qualche suggerimento sul cognome? La prima parola è sicuramente nero. Schwarz. La seconda è sicuramente, non lo so, Herbert Schwarzschild, ha 71 anni. No, è perché io la potenzio, così ritorno ad avere 16 anni. Mi sembra un nome tedesco e un nome tipo molto aristocratico, da quel poco che mi ricordo, tipo dei Rothschild, così, cioè la famiglia quella dei ricchi, così. Edward o Edward? Herbert. Perfetto, ma quanto sei del nome? Vabbè. Io dico sì, hai pienamente, cioè io lo prendo in disparte e lui mi dice figliolo, è ora di riposare, giusto? Penso sia il meglio riposare e vedere domani come affrontare. Io mi sono appena svegliato, quindi non ho bisogno di riposare, posso fare la guardia. Allora, sì, segnati Jacopo, perché ti sei fatto malissimo, non so dove, aspetta. Ma se per un'ora si sta, non è che... Ti sei fatto malissimo. Sei fatto male? Perché non sei fatto male? Ti sei fatto malissimo alla gamba destra, tipo 40 danni. Perché hai preso una storta. E mettiti anche un punto fatica. Ci sta. Tutti i valori dell'altra volta li devo tenere? Tipo 3 punti psiche. No, quelli li hai recuperati. Vabbè. E noi abbiamo recuperato punti psiche e fatica dal naufragio, no? Domanda salva, io non avevo l'armatura adesso, vero? No, no. Eravamo a una festa. No, anche perché tu eri in cabina e sei uscito in fretta e furia quando la nave si è inclinata. Quindi se ce li avevi, probabile, sono affondati. Tu si vedi che tu che scrivi con la penna sullo schermo. Io scusate, stavo problemi. Vabbè, dopo la... Ok, dai, passiamo la notte. Ok, andate a dormire e improvvisamente nel cuore della notte... Durante la notte tutti vengono svegliati da fortissime grida di dolore provenienti dal centro dell'isola. Tornare a dormire sarà più difficile per tutti. Oh beh. Il sole scalda già di primo mattino a queste latitudini e il caldo non lascia dormire neppure chi cerca riparo all'ombra degli alberi. Oggi è per tutti più chiaro che ciò che vi circonda è reale e non un fugace incubo. È mattina, sono più o meno 35 gradi, tasso di umidità 100%. Il mio clima ideale, veramente. Ma quindi umidità nel senso di nebbia? No, no, umidità nel senso di umidità. Piove già. Tipo, meno meno. Beh, 100% di umidità è praticamente la nebbia. Esatto. Quindi praticamente non vediamo a un centimetro da noi. No, no, non c'è la nebbia perché sono tipo 40 gradi, quindi è tutto vapore. È tutto... Cioè vi bagnate solo a muovervi. Vabbè, se dobbiamo andare in tropicale. Sotto un mese a luglio, veramente fantastico. E capite che sono stati premi nell'acqua. Io prendo tipo prendo lo zaino e faccio... Faccio tipo la corsa. Vi svegliate che siete in una bellissima spiaggia. Peccato che vi ricordate anche cosa è successo la sera prima. Chiedo a qualcuno, raga, qualcuno ci fa un mojito? Che bello, zucchero. Tutto zucchero, ti muoio. Io, una cosa, io nonostante le mie fattezze mostruose, visto il caldo, ho deciso di togliermi la maglietta e la gente si mette a urlare. Poi nota le mie fattezze mostruose e si mette a urlare di nuovo. Il dottore viene verso di te e dice: ma questo ce l'avevi anche ieri sera, figliolo. Non può essere che sia così. Come, scusa, non ho sentito. Il dottore si avvicina e ti fa: questo ce l'avevi anche ieri sera, figliolo. Forse. Non penso siano affari suoi in questo momento. È meglio. Aspetta, se... è stato che io lo chiamo figliolo e dico: non ero io tuo figlio. Ma ci sto! È meglio se diciamo agli altri di mantenere la calma e che non è niente di grave. Altrimenti si potrebbe scatenare il panico. Lo dico per te soprattutto. Vabbè, io adesso vado a dormire. Posso andare a riparlare dal medico e dico: ah, dovremmo continuare la conversazione che volevo fare ieri. Sì, un secondo. Allora, scusate, volevo farvi vedere. Non è pericoloso, era così anche ieri sera. È un Heroes, vero? Ma di che stiamo parlando? Stiamo mettendo al centro dell'attenzione, praticamente. Parla a chi, scusami? Di Marco, il dottore. Il dottore parla a Marco. Sta dicendo a tutti che sono un Heroes, a quanto pare. Ah, va? Non me ne ero accorto. Vabbè, il dottore è buono a posto, è creatura fedelina, grazie. No, ma solo un difetto genetico, nulla di cui preoccuparsi. Non è tira su sociale. Oh no! Conta il D4 perché sono mostruoso, giusto? Sì. Era più bello se facevi cazzo, ma ieri stavo bene. Tre. Vedi che la famiglia ti guarda normalmente, però impercettibilmente tiene stretto i figli. Il fratello ti guarda malissimo, Johnny. Guardo male di rimando. Owen, vedi che non ha dormito, è deperitissimo e ti guarda tipo stranito. E Vasili non ti ha neanche cagato. Marco, so cosa devi fare per conquistarli tutti. Fai un musical, tipo un pezzo musicale, una canzone. Candelabro e un orologio che canta. Ok, come dobbiamo procedere? Cosa vediamo intorno a noi adesso che è giorno? Allora, la foresta verso il centro dell'isola, destra e sinistra, due lingue di sabbia che si allungano. E riuscite a notare anche sul mare la barriera corallina, la differenza di fondale. Tipo, siamo tipo in una baia, no? Con le due braccia di terra che si chiudono. Più o meno sì, l'idea è quella. Ah, che no, però. È tutta sabbia per ora. Vediamo delle montagne o zone rialzate dell'isola, è tutta piana. In realtà no, perché vedete solo gli alberi. Il fuoco è spento. Sì, è spento. No, cioè, durante la notte non l'abbiamo ravvivato. Ha detto umidità 100%. Non penso che bisogna aggiustare. Prendo la delle rocce e comincio a scrivere sulla sabbia HERP o SOS. Scrivo SOS. Ma no, devi S.A.O. Sassi. Ma S.A.O. Cioè, nel senso, non scrivere sulla sabbia, perché poi si... i sassi, cioè... Ah, avevo capito che incidevi sulla sabbia. Domanda, ci sono dei sassi? Dovete cercarli bene all'interno della foresta, ed è difficile trovare sassi grandi. No, ma se si iniziano a immergere nella foresta, dico, aspettate un attimo. Vorrei vedere com'è la situazione dall'alto e provo ad arrampicarmi su un albero. Tira, fisico. Però io anch'io, vabbè, ho il vantaggio perché ho le unghione e mi aggrappo meglio. Te lo aiuto anch'io, non posso aiutarlo io. Cioè, sì, lui. Lo puoi aiutare solo per il primo metro, ma... Quanto hai fatto? Ho fatto 5. Ok. Riesci sforzandoti molto a salire e vedi che la foresta si estende e vedi l'unica cosa che riesci a vedere è alla tua destra, molto lontano, al diciamo in direzione dritto a destra, vedi una montagna. Segni di civiltà qua minimamente o... Da dove sei tu non vedi niente. Ok. Perfetto, scendo giù. Ok. Lo riferisci? No, lo tengo tutto per me, ovvio che lo riferisco. E allora ti chiedo, che tipo di montagna è? Cioè, nel senso, l'altitudine più o meno puoi dirla... Cioè, non ti sto dicendo preciso, non facciamo così che... Cioè, nel senso, ti sembra una montagna... Era più montagna o più collina? Una grande collina o una montagna? Dove io troverò la neve che si scioglie e diventa acqua? Non possiamo trovarvi, siamo morti tutti. A meno che non è un atollo. Quindi scoprire che ci sia il ghiaccio, che poi si scioglie, basta anche un ruscello. Un atollo si è ruscello. Un atollo si vede a tende. Sì, lo so, però se c'è la montagna si vede ruscello. Ehi, lasciamo parlare il master. Non la trovo. Ritornate a urlare allora. Nord-est. 250 metri. No, che quindi più collina che collina. Sì, è una collina, però è molto alta rispetto al resto, quindi ti sembra comunque parecchio. Certo. A giudicare più o meno, giudicare da quando ero sull'albero, l'isola è di che dimensioni è? Enorme, gigantesca o... Parecchio grande. Parecchio grande, buona sapersi. Parecchi chilometri. C'è lui, ha visto. Quindi facciamo il punto della situazione. Cosa abbiamo con noi? Abbiamo il fuoco che siamo riusciti a accendere, che è già buono. Armi, oggetti per la sopravvivenza, qualsiasi cosa. Salla, posso mettermi a spaccare pietre per cercare di fare delle cose affilate? Che pietre? Quelle che ho trovato per scrivere SOS. Scusa, ma io non ho trovato pietre per scrivere SOS, a meno che non si avventuri nella giungla. Vai nella giungla, vai. Ok, allora vorrei una proposta. E un attimo, non ancora prese, prima Marco deve parlare che è scritto sull'albero. Vi ho descritto come ho visto l'isola. vorrei fare un po' di esplorazione. Io consiglierei di lasciare i feriti e un gruppo di noi qui a organizzare un piccolo accampamento, a cercare magari nei dintorni, mentre un altro gruppo di noi si inoltra più profondamente, più in profondità nella foresta. Io penso di stare qui. Io nella foresta. Allora, io, se qualcuno mi aiuta, riproverei a fare una specie di riparo, però non facendomi aiutare da Mr. Zombie, che mi sembra un po' inutile. Io volevo, avevo questo come proposta, avrei voluto portare con me nella foresta Luca e Jacopo, a dire il vero. Ah, vabbè, allora. Sarebbe stato il gruppo migliore per esplorare. Quindi vi dividete così a muzzo, va bene. Io scavo la fossa e mi ci metto dentro. No, fallo, scava la fossa. Ti voglio dire una cosa, prendi dei contenitori vuoti, tipo delle tazze o dei barattoli. E dove li trova? Come? Le provviste, ci saranno qualche contenitore che una volta mangiato, no? Insomma, cose. Erano sfuse così Le provviste le dividete? Barrette energetiche. Le provviste le dividete con tutti? No, fate sempre gli altri. Okay, ma allora non le tirate fuori, fidati. No, le provviste le dobbiamo dividere con tutti, cosa vuol dire? Porca puttana, quando sei bravo, sei proprio un bravo ragazzo, ma ti fai incazzare quando sei bravo. Perdonami se non mi piace. Dividere o non dividere, prima o poi ci sarà un po' di trovare delle cose concave. E se non trovi ieri, quando succederà da 3-4 giorni? No, appena li trovi, scavi un buco, ci metti un po' di tessuto fermo e ci metti dentro il suo bicchiere, che è quello che la potenza ci cala l'acqua là sotto. Ma ti rendi conto che pro? Ti rendi conto che l'hanno detto anche in Fumble, non ha funzionato benissimo, ok. Le 4 ore fai qualche goccia d'acqua. Che bevuta. Edo, vorrei farti responsabile delle provviste, mi sembri il migliore, così in caso qualcuno si lamenti anche puoi, diciamo, farle sparire, tenerle al sicuro. Perché vuoi? Esatto, ma è proprio quello che volevo fare, per tenerle comunque un po' al sicuro, magari, se capita che ti passa per mano. Io consiglierei di dividere però anche con gli altri feriti e così. No, cerca di partizionarle. Scusate. Come che si dice? Razionarle, scusa. Cerca di razionarle per qualche giorno, vedremo. Volevo mettere nel portale, diciamo, se riesco, perché in modo che magari nessuno le possa rubare di nascosto. Almeno quelle più allettanti, se non... Tipo l'acqua, per esempio. No, se non troviamo altra acqua, l'acqua penso che sia la cosa più importante. No, c'è il sangue degli altri che possiamo bere. Mm. Ok, io allora, direi il cibo è in sacchetti di plastica. Perché è liofilizzato. Ah, ok, quindi vabbè, in sostanza, cioè, per metterlo nel portale è più comodo, in realtà. Sì, te non hai problemi a metterlo via. Sono tipo dei sacchettini. La cosa che ti dico è che lo vedo convinto a fare sta cosa, o spero di farlo, e lo consiglio io, dico, lo metto davanti a un albero in cui fai insegne, perché metterlo in mezzo alla spiaggia non li troverai mai. Sì, diciamo, era scontato. Diciamo che ci brucia. Sì, lo so, ma non mi sento così... Se nessuno ha altre proposte, io andrei con il mio gruppo a esplorare. Al portale? No, sulla spiaggia, tipo con le chiavi. La mia proposta è che se ci dobbiamo muovere, ci dobbiamo muovere insieme. Mi dispiace, io te lo dico, Marco, cioè, non ho per cattiveria, tu devi capire che io non so, perché voi non è, io a volte mi sento, siamo stati attaccati, chiunque attaccato, veramente non lo sappiamo cosa siamo stati. Cazzo, è l'apoteosi, dice, magari siamo all'interno delle... In questa avventura ci deve essere sempre un complottare. Esatto. Complottista. C'è un complottismo, c'è un attaccato. Complottaro, non complottismo. Voglio la nostra carne, voglio le nostre ossa. Quindi, secondo me, andare da soli, per quanto sia overpower. Allora, controllo che la situazione sia stata un po' organizzata, che tipo ognuno dei superstiti abbia avuto qualche provvista, che il fuoco sia acceso, cose del genere, che siano tutti a riparo, poi mi parlando con i dottori gli dico che il nostro gruppo vorrebbe andare a ispezionare la zona e i dintorni per vedere se troviamo qualcosa di utile, risorse, robe del genere. Io vado dal tipo e gli chiedo il binocolo, se me lo ce lo presta. Il tipo restio, papà di famiglia con la telecamera, i soldi, i documenti, i preservativi, dai. Sì, va bene. Però io chiedo il vestito alla tizia e oppure gli chiedo quello che ha addosso ora, se è più sporcaccioso. Assolutamente no, il binocolo non c'è problema, i vestiti no. Ok. Io gli dico a Marco, senti, visto che adesso c'abbiamo il binocolo, puoi tornare sull'albero e guardare col binocolo? Che ideona. Potevi fartelo venire in mente prima. Marco, sei proprio un leader. Che leader che sei. Sì, adesso dovrei essere vantaggio. Tipo su D&D era così. Quando facevi una cosa, visto che già l'avevi scalata la cosa. Oppure di quello che c'era rimasto addosso, abbiamo ancora le nostre armi, tipo i manganelli, i coltelli che avevamo noi. Io sì. Eravate alla festa? Beh, erano cose piccole da tenere in tasca. Dio santo. Allora, Jump sì, perché le ha prese in cabina, mi pare. Sì, yes, bro. Va bene, glielo concedo, dai. No, io ho preso pure qualcos'altro di qualcun altro. Chi è che me l'aveva chiesto? No, non per recitare, però almeno un altro gli avevo preso qualcosa. Mi sa che un manganello ce l'abbiamo. Non mi ricordo. Quindi, cosa hai con te, Gianfè? Sarà Iago, lo stesso Iago, che quando è uscito era uscito con qualcosa. Non me lo ricordo, quindi io mi posso guardare. Decidi tu. Però io mi ricordo che oltre alle mie cose avevo preso qualcosa. Mettici anche un manganello. Abbiamo un coltello e un manganello, quindi. Allora, io c'ho un coltello, poi c'ho il coltellino, ma proprio quello da portachiavi, che cioè fotte sé, capito? Quello con proprio stupido. Il coltello un po' più decente, e a questo punto sto manganello. E vabbè, è più stronzato in più. Ma... è un tablet che non funziona. Esatto. Va bene. Per quello ce lo faremo bastare. Giusto per sapere, durante la notte recuperiamo qualcosa? Punti fatica? No. Beh. È una notte stressante quando vai. Allora, andiamo. Che altro possiamo fare qua? Io volevo andare... immagino Edo che non abbia dietro con me la mia simpatica mazza da 7 kg. No. Tu hai solo il tuo libro, Luca. Come? Hai solo il tuo libro, Luca. La mazza non potevi portarla in aereo. Non la potevo sembrava. Okay. Ma si troverà qualche tipo pezzone di legno che posso usare per picchiare la gente? Perché non so se la vegetazione. Discutete su chi va a esplorare e dove, in che direzione. Io mi dirigerei verso la montagna. Se anche non riusciamo a raggiungerla, almeno abbiamo un obiettivo, e se riusciamo a raggiungerla molto meglio, perché vediamo l'isola dall'alto dopo. Come siamo vestiti? Cioè, chi è che ha un vestito in più da buttare? Nessuno si parte vestiti. Cosa ti serve? Cioè, come sono vestiti? Non mi viene dubbio per te. Eravamo a una festa, non so. Una sera era una festa. Sì, eravamo visti a tiro, diciamo. Già che io perlomeno ero a tiro, perché qualcosa tipo camicia. Io magari indossavo qualcosa di più pesante per nascondere le mani. Sì, perché l'aveva condizionato dopo, sai come sono nei cosi, la condizione altissima. Quindi c'eravamo vestiti, ma vestiti proprio, oltre che bene, anche abbastanza pesantucci. Non quei maglioni. Sì, tipo, però il senatore a 18 gradi. Qualcuno c'ha un pezzo del suo vestito che è rosso? Mutande, calzini. Io no. Jacopo sta diventando sempre più inquietante. Per fare cosa, se posso chiedere? Per arrivare al mio piano, è una stanza ogni tipo 200 metri volevo passare un pezzo e fare il percorso che stiamo facendo per non perdere. Guarda se qualcuno ha un vestito di un colore acceso che si possa riconoscere. È quello che sto chiedendo, infatti. Devo chiedere un vestito rosso per partire sull'altro. Allora, mentre fate tutte queste menate, mentre fate tutte queste menate, si è fatta ora di pranzo e avete un po' di fame e sete. No, lo sa, per quando ti voglio rispettare, ti voglio bene. Non puoi dirmi che sto passando. Non con bloccare. Allora, Jaff, hai ravvivato. La liberazione. Già avete ravvivato il fuoco, rifatto il rifugio, chiesto a tutti roba. Questo ha scalato un albero. Sono andati a cercare dei sassi. Quindi sì, è ora di pranzo. Non okay, avete neanche fatto colazione. Esatto, quindi ok, allora ci sta. Penso che non avessimo fatto nulla di tutto questo. Che era solo... ci sta già riusciamo a procurarci un vestito abbastanza acceso da usare come segnalazione per tornare indietro? Io voglio tornare indietro, che ci vuole? Rip. Vabbè, domanda a me. Manda al mano. Segnalare qualche altro modo, tipo per le piante. Dai, secondo. Andiamo verso la montagna, sì, che è definita. Quindi abbiamo un dietro e un avanti. Noi adesso puntiamo ogni tanto alla montagna. Allora, ci assicuriamo che ci siano un po' di provviste disponibili per tutti. Allora. Vabbè, ci prepariamo. Ok, vabbè. E poi dopo ci dirigiamo alla foresta. Per comodità? Per comodità suddividiamo l'isola. Diciamo che voi siete a sud dell'isola, okay, e la montagna l'hai vista dall'altra parte dell'isola a nord-est. Ah, completamente dall'altra parte, non in a nord-est, però non centrale. Okay. Okay. Beh, comunque dirigiamoci in quella direzione, vediamo se troviamo qualcosa. È anche più probabile trovare corsi d'acqua, probabilmente, sulle montagne. Esatto. Ok, quindi vi dirigete direttamente in diagonale verso la montagna nord-est, giusto? Yes. Perfetto. Posso dire una cosa? Io sì. Io sto davanti a tutti, apro la strada. Ok. Allora, prima che partono, visto che si è fatto la di pranzo, cerco in maniera abbastanza, diciamo... furtiva. Sì, esatto, senza farmi vedere da nessuno, di allungargli qualche provvista. A chi? A loro che partono per l'esplorazione. Ma andate tutti. Andiamo tutti perché sennò... Allora aspetta, allora prima faccio una cosa. Lo dico perché è bella lunga la strada. No, vabbè. Roba vabbè, che arrivate a fine giornata, la notte. Ok, sì, andiamo tutti. E tu dal portale ti riprendi la roba che hai preso. Allora, io non ho ancora messo nel portale. Allora, io nascondo, diciamo, metà delle provviste nel portale e metà ce le portiamo. Ma perché? Considera che hai 10 reazioni e voi siete 6. Lo so. Ok. Però tanto sei per forza, cioè nel senso che in ogni caso ci dobbiamo un po' restringere le reazioni, sennò... Prendiamone metà e lasciamo metà agli altri, perché poveretti, cos'è, non mangia gli altri. Ma forse sì, ancora gli altri. Ho capito. Moriranno lo stesso. Bisogna sopravvivere almeno qualcuno. Siamo un gruppo, mettiamola ai voti. Dove? Siamo 6, sono noi. Sono 10 azioni per un pasto, cioè per una giornata. No. Non lo so. Salva? Sono 10 razioni... nel senso, avete un giorno di cibo per 10. No, ragazzi, non spacciamo. No, allora, direi che noi quanti siamo in totale? Siamo noi 5. Tanto che è una settimana di promesse. Siamo 3 giorni. Siamo un giorno. Zombie, depresso, famiglia. Vabbè, allora ci facciamo così. 5 azioni per noi e 5 le lascio a loro. Perfetto. Perché tanto se poi non riusciamo a trovare del cibo, cioè al massimo aumentiamo di un giorno la nostra sopravvivenza, poi basta. Figa, secondo me si fa un giorno. Tanto se non troviamo cibo siamo morti lo stesso, dai, secondo me è uguale. Okay. No, okay. Senza cibo ci andiamo in direzione della montagna, stavolta sul serio. Senza acqua, un po' meno. Vi muovete nella foresta verso nord-est. Faccio strada con gli artigli, tipo. E vedete che la foresta... è molto fitta e vi rallenta. però potrei citare un buono, non c'è, potrei prendere il potere che crea oggetti e faccio gli oggetti di acqua. Mentre, no, andate, mentre andate lungo la foresta, si prendi il coltellino e potenzialo, così fai la falce quella per andare avanti nella foresta. No, non lo farò. Vi rallenta lo stesso. Volete fare qualcosa? Cioè, camminare normalmente, camminare facendo così è più lento camminare facendo così. È vero, allora tanti film che lo fanno per nulla. È per passare, se no non passi proprio. Sì, cerchiamo di farti strada. Io comunque, mentre camminiamo, guardo se ci sta un bastone, il mio famoso bastone con cui devo picchiare qualcuno. Ok, trovi un bastone abbastanza robusto da usare come arma. Ne prendo uno anch'io se c'è. Ok, segnateveli sulla scheda. Ah, c'ho anche un cazzo di manganello. Chi lo vuole? Lo prendo anch'io. Beh, funziona, no? In che senso? I danni vuoi sapere? Sì, se fossi vuoi darmi già adesso. Sì. Odio il manuale. Odio il manuale. Odio il manuale. Che non è indicizzato. Allora, sembra quasi che qualcuno dovrebbe essere. Bastone 1d8. Dimensioni piccole. Danno botta. Bastone dimensioni piccole. Okay, quanto piccolo? Vi servono due mani per colpire, per fare danno. Ok, però un D8 non è male. Un D8 non è male. Ammazza con di 12 che la faccio male. Ok. Con Salla, io da quando stavo per aiutare Jump a portare Jacopo in salvo nella sciroppa, io avevo preso lo zaino con tablet e il manganello, mi sembra. Ah, ecco, allora era lui. Allora era lui, e quindi segnati il manganello e il tablet e lo zaino. Quindi ho lo zaino con tablet e il manganello. Sì. Quindi ho un manganello. Sì. E una tavoletta. Allora, è una tavoletta da usare come... come scudo, sì. Ok. Mi sono pensato, io uso un dicevo... bastone. Cosa? No, uso il bastone tipo per poggiarmi per terra e per toccare se tipo ci sta roccia o altre, cioè per vedere che materiale è sotto. Ok, tanto il primo è Marco, quindi easy. Ok, non fate niente di che e continuate a camminare per qualche ora. No. No. Non è facile, dai, aiutaci. Troviamo un vaso. Marco, tu sei il primo? Yes. Io sono capo. E il secondo chi è? Giusto per capire. Oh, io non lo so. Sì, quelli grossi. Io sono piccolo. Io chiudo la fila. Sarà il primo a essere salito. No, sono se ne accorgeremo. Perché secondo? Perché io vorrei che mi sesto. Ok, c'è qualcosa che mi manca. Ok, allora sei tu l'ultimo della fila, top. Io sono no, sesto del gruppo totale. Sì, siamo sei. Scusate. Dai, chi è? Prima Marco, poi Edoardo, poi Jacopo, io, Luca e Gian. Ok. Vabbè, non ho capito, però va bene. Mi fido. I primi tre mi facciano un tiro di riflessi. Ci sta. Sono andato a lanciare il terzo. Sono io il terzo. Brunora sta più un tiro di riflessi. Riflessi. No, io sono reso uno. 4. Ok. Edo e Marco. Mentre camminate. Sentite. Marco, senti che calpesti qualcosa di diverso? Sentite un clac? Una grossa rete vi tira e vi solleva. Jacopo, tu riesci a lanciarti in un angolo per evitarla. Quindi siete sospesi 2 metri sopra il terreno in una grossa rete. Ci sta. Che cazzo è? Giampa il coltellino. Uso sto cazzo di coltellino. No, la ritmi col... tipo. Non credo che l'isola sia disabitata. Vabbè, suppongo vado il classico, vedo, capito, la corda, la corruga, quindi sarà tipo una corda di là che io stack. Tira su mente. Su mente? Io boh. Devi sapere che funziona le carote. Caro Gio, certo che lo so che funziona le carote. Fisica 1. Mente. Però, ma la vedo male. 3. Non vedi nessun cavo alla tua altezza. Probabilmente il cavo staccandosi è rimasto attaccato a qualcosa sull'albero. È arrampicato. Allora gli continui lo lancio. Prendilo! Tac! Dico un cicca. Che vuol dire staccandosi? Non ho capito. Cioè, quando ha fatto scattare la trappola, si è staccato un cavo che è salito ed è attaccato a qualcosa sull'albero, cioè non a terra. Capito? Quindi il peso è comunque alto, non è basso. È basso questo. Ok. Vabbè, arrampicati e taglia la corda. Fallo tu, tieni il coltellino. Vabbè, lo faccio io. Tira, fisico. Guarda tuo. Allora. Che devo dire? 3. Oddio, è morto. Ok, riesci a tagliare. Prendi un punto fatica. Non avete capito? Io sta campagna qua vi ammazzo lentamente. Tra le razioni, la fatica e la psiche siete fottuti. Quanti punti fatica hai, Gava? Ne ho 3, devo sempre fare il tiro fatica? Assolutamente sì. Ah, ok. Perché hai 3 punti di fatica se li abbiamo recuperati per il sottrago tiro fisico? Allora. Siamo andati a cagare un sacco. No, ho fatto 0, quindi sono a posto. 0. Quanto hai fatto? 3. E ho 3 punti. Ok, perfetto. Riesci a tirarvi giù e non vi fate neanche troppo male. Ok. Siete solo un po' indolenziti. Faccio male. Io non sento neanche quello. No. Appena mi ritrovo nella morsa della gabbia, ti ho già liberato io, compare. No, volevo solo bestemmiare. Ah, ok. Se lo uccido. Prendiamo, ok, la rete, no, indizi sulla rete, c'è tipo un logo piazzato qui da capiamo di dove è stata comprata, tipo a Decathlon. Non è stata comprata a Decathlon. Okay. Però se riusciamo a smutarla, io la prenderei con noi la rete. Sì. Sì, quella potrebbe tornare utile. Posso usarlo per segnare il passaggio. Sì, che sia dato il passaggio, non vogliamo tornare indietro. Sono molto pesante da portarsi dietro, cioè immagino sia abbastanza grossa, però. È abbastanza grossa, abbastanza pesante, ma si porta volendo. La diamo a Jacopo, che è il più grosso. Grazie. Dimmi. Quindi noi ci siamo mossi mentre tutti gli altri sono rimasti all'accampamento, giusto? Sì. Non è che si sono mossi anche loro o avevano intenzione di muoversi? Non lo sai. Che voi non gli avete chiesto, che voi sappiate, no. Ok. Comunque non avevamo lasciato niente di importante noi là. Non che io sappia. No. Cosa pensi di chi deve aver lasciato, scusa? Oh, che ne so, le robe che avevamo raccolto, il binocolo, quelle cose lì. Il binocolo l'abbiamo preso con noi. Sì, ma per dire, magari l'avevano lasciato là. Ok, continuate a camminare per un bel po'. E pare che non ci sia niente lungo la strada a parte boscaglia, o meglio, non vi siete concentrati a trovare nient'altro. Aspetta, adesso che sappiamo che l'isola è in trappo, è trappolosa, un po' col bastone, tipo io tasto davanti ogni tanto, ogni due passi, però sto un po' più attento. Okay. Uno di voi mi tiri un dado da 6. Per fare cosa? Uno di voi o... Vabbè, lo tiro io. Vai. Io dai, che sono davanti. Quanto hai fatto? Fatto 2. No, Odis. 5. Porco. C'è il quinto in fila? Sì. Cazzo, sono io. Merda! No, sono io qui. Tu sei sesto. No, no, vabbè. Sei il quinto. Sono pronto, salva. Sono il boss. Il tipo più bambino sarebbe. Ma dai, sono stato davanti per prendermi le frecce e le trappole per voi e poi venite attaccati da dietro. Perché tu hai tirato la trappola che attacca da dietro. Gava, sì. Senti un dolore molto forte alla tua gamba destra. Malissimo. Sono 60 danni. Ragazzi, questo è adesso di Void, io vi giuro, appena mi sveglio lo ammazzo. Cioè, passando lo sguardo, vedi che hai un serpente. Come faccio a fare gambe poi? Passando lo sguardo, vedi che hai un serpente che è ancora attaccato alla tua gamba con un morso. Adesso non piace conoscerti. Ma sai quanto è grande questo serpente? Ma mi ero preoccupato, invece è una stronzata. Quindi non è molto grande. Sarà lungo così. Se sono piccoli è peggio. Non era una commedia. Per essere pignoli, posso chiederti il colore? Piccolina. Posso chiederti il colore? È rosso e nero. Cazzo! Rosso già. Rosso non mi ispira molto, eh? Posso smanganellare il serpente? No, tirate iniziativa. Non lo so. Tirate iniziativa. Con il serpente! Ma chi dirige? Io sono già tipo 11 km di distanza. Non è probabile fare un po'. Diamo iniziativa. Ma infatti non vai. Siamo adesso, no? La cosa bella è che sta campagna è tipo di origini. Ogni volta è un 5 per me. Via 9. Sabato 3. Io lo so, non è uguale. Che divertente. Vabbè. 1-6. Io ho fatto 2. 1. 4. Il magic number. Chi ha fatto di più di voi? Marco, mi sa, no, col 5. Io ho fatto 5. Tocca a tutti voi, quindi fate come volete. Tocca a tutti voi, rega. Ma contro il serpente dobbiamo combattere? Sì, vabbè, ma sei già morto Federico, perché dobbiamo morire? Non sono morto. Lasciamolo aggrappare. Allora, state concentrati. Vabbè che Gava sta per morire, però tutti concentrati. Allora, Luca, sei il primo, agisci. Hai sentito Gava che urlava e faceva "Ah!" Guardandolo, vedi che ha un serpente attaccato alla gamba. Ok, lo provo a prendere per il collo. Cosa? Cosa provi a fare? Il collo, vabbè, il collo. Dirlo, vorrei anche prendere, è appena stato morto, vorrei dire anche per il tira su fisico. Gava, vuoi schivare? No, aspetta, no, il serpente lo prendo. Vabbè, tira su fisico. No, scherzo a parte, il collo intendo 20 centimetri prima della bocca, vabbè. 20 centimetri? No, non deve riuscire a girarsi. Cioè, non deve girare la testa, non, come faccio? Quindi sulla testa? Cioè, tipo a cos'è? 20 centimetri. Tira. Vai. Fisico riflessi. Scegli tu. 3. Preso. Io gli dico, Luca, non tirare. Devi. Non tirare già. Devi spingerlo verso la gamba e aprirgli la bocca. Perché i denti sono verso di te. Però, sì, però piano. Non devi strapparmi la pelle. Se prende, c'è il senso. Madonna, che devi. Se mi strappi il muscolo, poi. Spingi verso la gamba e apri la bocca. Quel poco che gli ho fatto crescere. Poi tira quando lascio la presa. Vabbè, io a chi tocca? Tanto penso di. Quel poco di muscolo che gli ho fatto crescere. Non strapparmelo via. A chi tocca? A Marco. Provo. Luca ha preso il serpente, no? Gave a terra, immagino. Scusa, c'ho la reazione, no. No, in questo momento Gava è paralizzato dal terrore e ha ancora il serpente che non si è staccato dalla gamba. Ok. Non ho la reazione, vero? Prendendolo, tipo aiutandomi con Luca che lo tiene abbastanza fermo, riesco tipo ad aprire la bocca del serpente, a toglierlo dalla gamba? Sì, ce la puoi fare. Ecco, Paolo. Vedete che il serpente è immobile. Oh, esatto. Ah, e io leggo la gamba. Cosa vuol dire il serpente immobile? Cioè, non si muove in questo momento. Cioè, perché lo tiene fermo Luca. Esatto, perché lo tiene fermo Luca. Però nel senso è vivo il serpente, sì, non... sì, sì. Ok. Riesco anche a succhiare il veleno dalla gamba di Gara. Che altro possiamo fare? Aspetta, hai fatto tu, hai tolto il serpente? Sì. A chi tocca? Tocca a me e io leggo la gamba... No, tipo riesco a legargli qualcosa intorno alla gamba per bloccare? No, perché stai tenendo aperta una bocca di un serpente. Yeah. Okay, non è che sto lì poi a guardarlo, poi lo muovo. Marco, ci penso io. Comunque ho finito il mio turno. Capito? Vai. Ci penso io. Prendo una delle corde della rete, insomma, di quella che avevamo, e ci leggo la gamba di Federico per non far fluire. Hai una tourniquette, una tourniquet. Ok. Cosa ne fate del serpente? Ti tocca a te. No, non lo so, io sono fatto tre. A chi tocca? Potete dare una situazione che c'è il coltello? Per chiunque sia? Così arriva a me? Chi ha il coltello? Io. Ha coltellato sto cazzo di serpente. Ha coltello il serpente. Tagliategli la testa! E taglio la testa, cioè della serie. Così mi chiedo quasi sicuro. Giure. E ti prego, mi piace, niente più più leggero. Sì, ma non è che lo faccio proprio così, faccio proprio piano piano, faccio come guardargli il pane. Va bene. No, io gli impedisco di fare una cosa così. O è netto o no, perché sennò mi squaglia la gamba. Hai già finito tu? No, si è staccato dalla gamba. Ah, ok, ho fatto questa cosa. Allora, la gamba l'avete fasciata. Hai tagliato la testa al serpente, ora siete fuori dall'iniziativa e ditemi. Niente, prendiamo il serpente perché è buonissimo e si può mangiare. Insomma, mentre appena avevo un attimo libero, inizia a succhiare il sangue dalla gamba di Gava, giusto per vedere se... Fai una prova di... mente. Anzi no, riflessi. Io dico, io qua faccio, a te ti lascio la testa. È innaturale. Ok. Ho una domanda, Salla. Ma Marco può stare senza cibo? Tanto si rigenera. Funziona così. È il potere. È il potere. Tipo no, lo sento. Altro... Che... Aspetta. La scena è questa. Ci sono io che tipo... Sta delirando, non ascoltate. Tra l'altro, non mangiare qua è gravissimo. Cioè, se siete affamati tanto, perdete azioni e risposte. E poi crepate. Però cazzo, è proprio super bello. Vabbè, io mi taglio la gola, l'unica soluzione. Quindi continuate, proseguite o vi fermate e vi suicidate? Gava presentazione. Io prendo e ti faccio tipo una serie di nodi per renderlo più piccolo. Cos'è che hai chiesto, Marco? Per arrotolarlo, no. Cos'hai chiesto, Marco? Scusa? È oltre quando dà lo scappellotto a Peralta. Come? Hai presente oltre quando dà lo scappellotto a Peralta? Comitano. È uguale a lui adesso, in questo momento non è sta cosa. Peralta! Enough! Are you a genius? Okay. Gava presenta sintomi da avvelenamento, sta delirando, sta diventando... Sembra di no. In questo momento, ma tra qualche ora si nota. Finché stai bene, che possiamo fare? È la natura, Gava, la natura. No, aspetta, Salla. Io non vorrei continuare a camminare, che magari cioè inizia a fluire sangue. Muori lo stesso. Ah, no, aspettiamo un minuto. Se sembra vivo, ancora in piedi cammini, basta. Un'oretta. Cioè, se era un serpente velenoso, a quest'ora saresti già andato. Forse. Molto probabilmente. Se il veleno c'era... Cioè, non perché mi vuoi far vivere un'ora in più. Raga, qualcuno deve succhiare il veleno dalla gamba di Gabe. Qualcuno dobbiamo tagliare la gamba al Gabe, è l'unica soluzione. Prendi il coltello e taglia la gamba. No, l'ha già fatto male. Chiama anche 127 ore. Raga, onestamente. Qui possiamo magari, succhiare. No, quanti serpenti della foresta tropicale sono velenosi. Più che altro quindi è morto. Più che altro quanto ne sapete voi di veleni? Io? Top. Non lo so, forse The Witch 3 ha mi ha timbrare qualcosa. Momento. Ma c'è un medico all'accampamento, magari sa qualcosa. Cazzo, è vero, torna a casa. Ma magari... Ciao. Avete camminato? Avete camminato tipo 4 ore. Ah, ok. Ci allora, stanno. No. Beh, o muori, non possiamo tornare indietro adesso. Vabbè, morirò da eroe. Ok, proseguite. A un punto fatica tutti, fate una prova di fatica. Oddio, che senso. È una tassa, è una tassa sta avventura. Qui abbiamo un punto fatica in più, dobbiamo mettere. Sì, e tirare fatica. Come dire, ma stai com'è la somma? Ho fatto. Io ho fatto di più del ho fatto 4 meno 1 e fa 3. Quindi muoio un po'. Quindi 1, sei sotto stress. Scrivi, sotto stress. Sto fatto 6, a voglia. Io ho fatto 4, ma sto 2 quindi a posto. Pure sto 2, top. Dica il più uguale quindi fatica che hai. Attuale. Allora, dato che sono sotto stress, inizio a un po' a. Non devi tirare da dire, volevo andare da dire. No, scusate, qualcun altro di voi ha fallito? No, ha fallito. Sperato senza problemi. Di quanto? Allora, io ho fatto 4. No, avevo 3 fatiche e ho fatto 4. Luca. Allora, io ho 3 punti fatica attuali e ho fatto 2. Anche tu, sotto stress. Devo scrivere sotto stress. Non era maggiore di uno. Mentre proseguiamo, cerchiamo della marijuana per calmarci. Ho solo un. Non è maggiore, maggiore di uno. Era maggiore uguale. Maggiore uguale o l'attuale? Che ne ho da rivolto completo? Mi figa troppo questo. L'illuminazione del touch. Bisogna superare i punti fatica precedenti, cioè prima di aggiungerlo, vero? No, i punti fatica dici? Sì. I punti fatica, se fate meno dei punti fatica, la differenza è quanto grave siete affaticati. No, dico, però prima prima metti il punto fatica e poi fai il tiro, oppure sì, prima metti il punto fatica e poi fai il tiro. Ah, ok, no, comunque ho fatto 5, quindi ho 4 punti fatica. Ma perché hai giusto i punti fatica? Non avete recuperato? Ti faccio qualcosa. Prima di no. Esatto, no. Scusa. Ok, dicevo, vedete che la zona comincia a diventare rocciosa e ci sono davanti a voi alcuni rilievi montuosi, alcune rocce che si alzano leggermente, cioè di qualche decina di metri, e cominciate a intravedere la collina. Bene. Avanzando ancora, arrivate ai piedi di questa salita rocciosa. Come hai schivato il serpente? Com'è questa? È rocciosa tipo a 90 gradi? No, va su. Cioè, bisogna un po' arrampicarsi, ma niente. Cioè, ma se si fa, si arrampica, non è che deve essere uno scalatore. Ok. No. La mia domanda è: come sta Gava? Mistero. Può scalare? Gava in questo momento gli fa male la gamba, però non sta tipo febbricitante morendo. Cioè, sta con la febbre o non sta con la febbre? Non sta in questo momento. A posto, sì. Ti ho un bacino sulla tua, se vuoi. Che fate? Andiamo. Scaliamo. Tirate tutti su scalare fisico o qualcosa. 4 per me. Ok. Che miseria, 3. La vedo male. Okay. No, Gesù bambino, cioè scusate. Scusate, non volevo. Uno. No, non ci credo. Anche io. Posso usare la colazione del porco? Io ho fatto 4. Ok. Che imbarazzo. Ah, chi ha fatto 1 prende un punto fatica. Chi ha fatto 1 prende un punto fatica. Ma sì, tanto ormai, cioè, non mi viene. Prova di fatica. Cioè, la difficoltà era 1 e tu sei riuscito a fare 1, incredibile. Non lo so, quelli che hanno fatto, visto che molti di voi hanno fatto meno di 4, la vostra salita è rallentata decisamente. Quando arrivate su, Gava per 10 punti, anzi 20 punti ferita alla gamba destra, e guardandotela vedi una striscia nera che parte dal morso e va verso l'alto. Ah, raga, ve l'avevo detto. Aspetta, va verso e non mi ascoltava. Va verso i rigati. Dategli del rum e un bastoncino. Va verso il corpo. Verso il corpo. Il bene? Il bene? Sì. No. Verso l'inguine, ma è corta. È tipo un centimetro, meno di un centimetro. Quello potrebbe essere un brutto segno, forse. Segnate i punti ferita, Gava, però. E voi fate una prova di fatica. Verso dove? In alto, in basso? In alto. Fate una prova di fatica, voi due. Faccio una prova di fatica, 1. No, 6. Ok, adesso non fare più 6. È finito, ti sei giocato. Ragazzi, io però ho detto che avevo bisogno di riposo, no? Di pascalate. No, quelli che c'hai. Cioè, perché... Aspetta! Vanno... Cioè, aumentano. Non è che ti mi... Non, io non ho meno 3 punti fatica, più 3 punti. Esatto. Cioè se ne ho 0 sto bene. Esatto. Cioè meno 0 vuol dire che stai a tutta quella pace. Ah, ok. Questo è il bombe. Ok. Quindi c'è questa cosa nera che fa, cioè un centimetro va verso l'alto. Ma scusami una cosa, Alla, ma Marco non aveva succhiato? Grazie. Io mi fidavo di te, pensavo fossi esperto in queste cose. Fare... A cucchiare in giù. La prossima volta più liberi. Già, anche se non è così. È vero. Marco. Mentre salite, vi avvicinate a una sorta di altipiano. In cui vedete... Ma facciamo qualcosa per la mia gamba? Dopo. No. Ormai è tagliata, ormai è perduta. In cui vedete un piccolo assembramento di case, di capanne. Marco, poi abbiamo le case. E tranquillo, ti scambiamo. Via, camminati. Il villaggio, arroccato sui rilievi rocciosi dell'isola, ha tutta l'aria di essere disabitato. La sua struttura precaria, unita al senso di abbandono che si può respirare nella zona circostante, rende l'aria sottile e carica di mistero. Sono praticamente 12 capanne arroccate vicino a un ruscello d'acqua che sgorga cristallino dalle rocce. Ovunque ci sono delle robe buttate per terra e basta. Vai. Scusa, ma capanne del tipo aborigeni o capanne del tipo coloni americani del primo... Così dice. Allora, le capanne sono capanne tipo africano. Ok, ma è tribù un po' allo stato primitivo. Non avranno la fibra, secondo me. No. Ma Marco mi può curare. Andiamo qualcuno indietro per avvertire i tizi del come faccio a curarti? Non funziona, non ho il potere di curare io mi guarisco, non guarisco te. Ma io non ho detto di provare a usare il tuo sangue. Usare, esatto, usare il tuo sangue per curare. Ma fai la trasfusione. Secondo me è una cagata. No, a parte il fatto che non abbiamo gli strumenti per fare le trasfusioni, cosa cazzo dobbiamo trasfusare? Ci abbiamo il coltellino, basta che ti tagliamo il polso, facciamo uscire un po' di sangue. Da quando soffri di vampirismo? Lo spalmiamo sulla mia gamba. Babbo, io vorrei fare filata. Io sinceramente. Allora, tu hai detto che il coso è come. Magari fa come crema. Tu hai detto che il. Mi guarisco. Sì, sì, sì. Avete detto che il villaggio è disabitato. Posso sembra disabitato. Esatto. Io provo a fare un check di nuovo col binocolo, se ho un po' più di visibilità. E ugualmente mi sembra disabitato. Sì. Ok, grazie. Grazie, grazie. Non siete tanto lontani. Non siete tanto lontani da questo villaggio da usare un binocolo, lo vedete? No, per quello, cioè il binocolo, non so, metti che vedevo una finestra, una cosa, per quei dettagli in più, un atomo, una tenda. Tipo, già perché già stavi pigliando il villaggio. Vedevo qualcosa che si muoveva, solo quello, dicevo, queste cose così. Vedi gli elettroni che ruotano intorno. Grazie. Dai, Marco, mi fai questa trasfusione? Stai zitto, stealth. Come faccio a farti una trasfusione? Non so come fare. Ragazzi, non ce ne fate sega, tu morirai, ma non fa niente. Viene PG, non è quello importante. Ma io sono io, non posso cambiare PG. Sì, sì, ci sta un potere. Cioè, ho chiamato un altro. La storia è tristissima. Cioè, posso anche. Senti, per farlo contento, prendo il coltellino, mi tagliuzzo un po', mi faccio tipo un punto danno e gli lascio bere qualche goccia del mio sangue, giusto per fargli dire che è una schifo. Cagata. Avete sangue compatibili? No, morirà tanto, qui, posso dire, ma se lo... Dire, ragazzi, a fine giornata posso dire che mi viene succedendo a vicenda. Oggi. Se lo beve cambia qualcosa la compatibilità, no, quindi... Io volevo spalmarlo. Ma cosa? Cioè, Marco, lo fai Marco. Lo fai magari Marco. Magari è mar rigenerante, dato che c'hai il potere. Buoni. Voglio sapere se Marco si taglia e ti fa spalmare col sangue. No, perché sicuramente... Dai, ti prego. Prima provo a dissuaderlo per fargli capire che è veramente una cagata. Ma tu c'hai il potere! No, Marco, poi visto che non demorde, lo faccio giusto per farlo contento e per farlo star zitto e per poter proseguire nella missione. Perché... Marco, io sono stressato, sono sotto stress. E appunto, allora sono di città. Tiriamogli un botto in testa. No, dopo muore, lo sai. Ma no! Poi la circolazione diminuisce di unici. Perché ci fermiamo a pensare? Quando si tratta di uccidere Gamma, tutti ci fermiamo a ragionare. Se muore prima, il vero non ci colpisce. Cioè, ci divertiamo. No. La missione si ferma. Esatto, male. Il cuore così il veleno non circola più. Comunque raga, secondo me a 100 metri c'è tipo un antiviro, c'è uno con siero. Secondo me a 100 metri c'è tipo un antiviro contro il veleno. Vedo proprio blu e rosso. Ma... Sta. Ci siamo entrati, dai. Grazie Sara che ce l'hai messo in una di quelle case. Cerco nelle case. Ok, allora. Una alla volta. Allora, non ho capito un cazzo di quello che volete fare. Jump, che è due ore che voglio parlare. A tutti, raga, ci vado io da solo e poi vi faccio un cenno. Raga, scappiamo! No. Allora, con calma, una cosa alla volta. Gava sta qui, fermo a riposare un attimo. Quale gamba? Ecco, la gamba non ci piace. Resta zitto. Con lui rimane Jump ed Edo. No, Gianfe va. Edo perché mi fido di lui, Gianfe perché non mi fido di lui. Vabbè. Aspetta, Luca e Jacopo mi vengono dietro. Io Marco ti dico, Marco, lo so che tu hai ragione, però nello stesso tempo io mi sento... Aspetta, mi basta, termina la frase della prima parte. Sono piccolo e agile, mi nascondo bene, entro nei buchi. Ok, prova a vedere di nascondere dietro la gamba di Gianfe. Ora, io, Jacopo e Luca ci muoviamo in direzione del villaggio e voi state dietro di me nascosti mentre io vado davanti a esplorare, perché tanto è difficile che riescano a farmi troppo male loro. Ecco, sì. Vedremo, magari. Cazzo, per me, ma perché non potete steltarvi? Provate! Io seguo a distanza. Ma ci steltiamo, cioè, cosa vuol dire? Ci steltiamo, se è quello che... Tu mi dici stealth di adesso, io qui, come cioè, fisicamente... Sarebbe così! Vedete? Ho già girato qui... faccio? No, vabbè, scappi e... Vabbè, provo a muovermi in maniera poco cospicua. Cazzo, è una boscaglia. Poi ci stanno le rocce, le capanne, l'idea è tipo di metterti dietro una capanna per cercare di... Marco, vai avanti, io ti seguo, a distanza. Ok, perfetto. Ma... Allora, io e aspetta, Jacopo, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, tu e Jacopo, davanti stai tu. Sì, assolutamente. E dietro Jacopo. Io a distanza, però. Avvicinati. Io li seguo col binocolo. Voi dietro state sull'attenti, in caso di allarme venite a darci una mano, solo questo. No, mi è voluto, non ti fidi. No, Luca c'è il terzo. Io sono terzo, vabbè. Sì. Ok. Avvicinandovi al villaggio notate due cose. La prima cosa è che non vedete segni di vita. La seconda cosa è che il villaggio è addossato su una montagna e c'è una grotta che dà verso l'interno della montagna e parte da più o meno l'interno di queste di questo cioè il centro di queste di questo villaggio. Marco, non vediamo segni di vita minimamente. Non no. Sentiamo rumori? Soffiare del vento. No. Naufragarmi in dolce in questo mare. Marco, io ti dico esatto che voglio cercare un po' dentro le case, magari le capanne, vabbè, le case. Perfetto. Allora io dico loro state nascosti e mi dirigo furtivamente dentro le case a vedere se c'è qualcuno dentro che magari non faccia non fa rumore o roba del genere. Allora, ok. Possiamo. Ma è a cazzo. Decido io. Figo. Cioè non c'è un numero? Stai parlando con me? No, sto parlando con quelli che hanno scritto l'avventura che mi fanno scegliere a me quanto veloce vi potete morire. Ok, scusate. Allora, cosa fate voi tre? Che non ho capito. Dico loro di restare lì un attimo nascosti nei paraggi mentre io mi avvicino di più alle case per vedere se c'è qualcuno dentro. Ok. Apri una casa? Tipo, sì, c'è una finestra, uno squarcio, qualsiasi cosa, sì. Ci guardo dentro. Guardando dentro, vedi un corpo su un angolo distante dalla finestra in cui sei. Ok, accasciato un corpo per terra. Immobile? Sì. Nel senso, morto da tempo? O... Ti sembra morto? C'è un po' di sangue intorno? Mi ricorda per caso gli zombie che abbiamo visto sulle colline di Bologna? No, perché è vestito da indigeno. Ok, ma c'è, non so, avevano tipo dei segni particolari gli zombie delle colline, tipo occhi emaciati. Questo vene, non lo vedi in faccia. Ok. Controlla il sangue se è fresco. Ok, faccio tipo segno a Jacopo e Luca di stare attenti, non so che segno abbiamo messo, tipo così, non so, stare attenti. No, è questo per gli italiani. Ci sono c'è un sassolino vicino a me, un sassetto, sicuramente. Un ciottolo, lo raccolgo e provo a tirarlo addosso al corpo a vedere se reagisce. Ok, nel caso lo manchi ci riprovi, immagino. Sì, se non attiro l'attenzione. Ok, allora ci perdi un po' di tempo, anche se lo manchi, non tiri, non ti faccio neanche tirare. Lo colpisci e vedi che non c'è movimento. Lo colpisci più di una volta e ancora non c'è movimento. Ok. Allora prova a entrare nella casa per... Ok. Vedi che la casa ha tutto in disordine e c'è un altro corpo vicino, cioè dietro a una sorta di, non so, come, tipo un vaso rotto per terra. Provo con il mio bastone che è ancora con me, quello punzecchiarlo un attimo per vedere se reagisce. Non c'è reazione. Ok, provo ad avvicinarmi a vedere se riesco a capire di cosa sono morti, giusto? Bam! Perfetto. Girando il corpo vedi un corpo sventrato, orribilmente sfigurato. Perdi un punto psiche, fai una prova di psiche. Bene. Cioè, abbiamo, ho visto, non vorrei dire, ma ho visto Jump che uccideva a sangue freddo più di una persona. Sì, ma questo è veramente schifoso. Quanto possa traumatizzarmi la visione. Perdi un punto psiche. Io guadagno punti psiche ogni volta che queste scene. Ho fatto 9 comunque. Guadagno 1. Okay. Quanti punti psiche hai? 1? No, ho 4 punti psiche. Ah, okay. 4 punti psiche. Sì, al margine della psicosi. Il corpo è orribilmente sfigurato e sventrato. Oh madonna. Indigeni tipo, non so, cioè proprio indigeni tipo le tribù africane che si vedono nei documentari di Discovery Channel o National Geographic. Sì, è vestito con un perizoma e ci delle collane. Sexy. Stessa cosa anche per l'altra tizia. La tizia è è una donna ed è vestita invece con una veste, ma è tutta tagliata perché è completamente aperta in due. Buono a sapersi. Quindi sì, segni di lotta. Se vado nelle altre, se provo ad andare in un'altra casa, stessa situazione. Allora 6 6 6 6, tiro a caso, non so se l'avete capito. Anche il serpente di prima. Io non ce l'ho con Federico, proprio una cosa. No, ha tirato a caso. Direi che era... Ok, ti avvicini a un'altra casa. Scusa, la lingua. Guardi dalla finestra. Aspetta, quando esco dalla casa ti faccio il segno loro, qualcosa non va, faccio sto. Ti avvicini alla casa. Sì. Guardi dalla finestra. Ma cazzo, esatto. Guarda. E appena ti sporgi, un uomo si alza e ti dà una sorta di graffio addosso. Sbagliato. Puoi provare a schivare. Ci provo assolutamente. Cosa sono io adesso? Sì, esatto. Ho fatto 1, ovviamente. Ti colpisce. Sta facendo il Marco, ma io non lo so perché non so dire. Arrivo. Sentite Marco che fa un urlo. E ora devo trovare la scheda. Ah, eccolo qua. Che sa, Marco è morto? Un urlo. Un urlo? Ah, deve essere il segno che va tutto bene. Ti colpisce al busto. No, d'accordo, se urlo vuol dire che va tutto bene. Ti colpisce al busto e ti fa... Ma chi ho? Chi? 20 danni. Ma chi è una cosa? Io entro, ne so più. Dire 10 danni grazie alla mia resistenza. 10 danni. Sì. No, mi fa 20 o 10 danni? 10 danni, cioè 20 danni togli 10. Ah, ok, sì, no, nel senso. Ok, vedi che questo corpo è, questa persona è tipo uno zombie. Messo molto peggio. Messo molto peggio, è come se fosse quasi inizio di decomposizione. Dietro di lui ce ne sono altri 4. Ma chi te lo do? Dentro la casa? Sì. Dentro la capanna? Merda. Noi se sentiamo l'urlo penso che io... Sì, è il mio turno? Iniziativa. Okay. Sei naturale. Sì, naturale. Col binocolo posso vedere? No. Puoi cioè non vedo dentro la stanza, non c'è tipo una finestra... No. Non è in una casa, però sta guardando la finestra e non la vedi in questo momento. Senti un urlo, sì. Tirate okay, iniziativa a tutti. Aspetta, scusa, Luca? 6. Ok. Minchia. Jacopo? No. 2. Gli altri? Apri gli altri, no? Ma sì, io sto a 1000 km. No, non siete così lontani, avete sentito l'urlo. Sì. Anch'io l'ho sentito. Tu sì. Non dici niente, tu devi saperlo e basta. Tu non devi girare. Tu devi solo sei. Punti sopravvivenza. Ma che top è sti tir? Abbiamo fatto tutti 6. Iniziamo prima di subito. Va bene, cominciate uno tra Marco e Luca, poi Jump. Poi Jacopo e poi non so se Gaba vuol far qualcosa. No, io non mi alzo, figurati. Che poi va ancora più in circolo. No. No, vorremmo disturbarla. Allora, sai cosa ho fatto? Io vicino a dove mi ero seduto ho cercato qualche foglia, perché dato che mi ero spalmato il sangue di Marco sto facendo tipo, sai, gli impacchi. Che schifo. Brava. Foglie sopra per far aderire l'igiene. Madonna, quanto si può infettare con la ferita. No, no, sta la erba curativa. Più sangue rigenerante. Una cosa. Vabbè. La ricetta della nonna. Marco o Luca? Vai prima tu, Marco. Ok, io mi metto in piedi sull'attenti. Sei già in piedi. Innanzitutto grido pericolo. Pericolo. Il secondo segnale che diceva che okay, il tipo è oltre la finestra. Non avete un segnale tipo un urlo, tutto ok, due urli, nemici, tre urli, zombie. Quattro urli chiamati Condor. Cos'è che mi hai chiesto? Jenga. Cosa mi hai chiesto che non ho capito? Il tipo che mi ha colpito è davanti a me, è sì. Dentro la camera. Magari dentro la casa, sì. Potrei tipo colpirlo col bastone stando fuori o? Sì, puoi colpirlo col bastone stando fuori. Ok, provo a colpirlo col bastone stando fuori. Io di fisica. Non ricordo, c'erano dei modificatori? No, non c'è un cazzo. 3 di fisico. Schivato. Uso il mio movimento per arretrare verso Jacopo. Luca. Allora, io entro nella capanna. No. E la Madonna. Ti avvicini a Marco. Tu sei dalla parte di Marco. Marco è davanti a te e guarda in una finestra di una capanna. Tu sei un po' dietro, sei rimasto. Almeno così vi ha detto Marco. Aspetta, Marco, io sto un po' dietro. Fa conto che la scena è questa. Voi vi siete avvicinati, voi tre. E poi Marco ha detto, state qua, vado avanti io e vado a vedere cosa c'è. Va un po' avanti e sbircia da una finestra. Non vede niente, entra... Poi esce e fa, c'è qualcosa di strano, sbircia dalla finestra di fianco, diciamo, almeno io me la sono immaginata così, sbircia dalla finestra di fianco e caccia un urlo, quindi tu ti puoi avvicinare a Marco nel caso. Ok, allora sì, perfetto, mi avvicino a Marco. Vedi anche tu la scena, vedi un tizio tipo zombie messo molto più, molto più brutto. Edo, tira iniziativa. Ah, scusa. Brutto. Uno! Non deve aver fatto io invece? Sì. Anche Marco è un game. Mi devi dire un punto di esperienza più Edoardo perché sì. Non è Dungeon World. E quindi vedi anche tu la scena di Marco, quindi vedi questo tipo zombie decomposto e dietro di lui ne vedi almeno altri due. Ok. Jump. Io, capendo che va tutto bene, tranquilla situazione. Vabbè, allora mi affretto. Affretto. Tipo, caccio di quel tipo di cello, tipo, arrembaggio! E quindi mi scoglio tipo verso la. Cioè, ci arrivo. Quanto tempo ci vuole per arrivare? Uso tutta l'azione, no, sì. Due azioni. Come due cioè, azioni? Cioè, la prossima. Puoi ingaggiare. Ok, cioè tutta questa azione mi serve per arrivare. tutto sto turno, giusto? No, okay. Ti serve per arrivare dove era Luca prima. Tu stai? Voglio dire, ok, niente, vado là. Ok, Jacopo. Quindi anche io posso arrivare a colpire, devo arrivare e basta. Tu puoi arrivare a colpire me. No. Ok, vedo. Hai sentito due urli, un urlo e poi un urlo che diceva pericolo, mi stanno picchiando. Non si era capito. Ah, io anche mi sento il dolore, fammi sentire più maschio. Allora, divertimento. Il tizio che sto proteggendo, ovvero lui, come è messo? Boh, si sta facendo degli impacchi con foglie e sangue. Ti farei perdere un punto psiche solo per questo. No. Allora, vabbè, diciamo che lo guardo e perdi tu un punto psiche. Poi diciamo che mi fermo tipo un secondo a pensare. Ma vabbè, tanto peggio di così non è che può fare, quindi me ne vado e raggiungo gli altri. Ok, raggiungi Gianfo. Sì. E, ok, Marco. Vedi che io quello lì dalla finestra scompare. Jacopo non ha agito. Sì, si è avvicinato a te. Ah, scusa, non avevo sentito. Quello lì dalla finestra scompare verso l'interno della casa. E vedi quattro Zankis che escono e ti arrivano addosso. Sono molto, molto più veloci rispetto a quelli che avevi visto nel coso. Ti attaccano tutti e quattro. Buono. A chi? A Marco? Li faccio. Ah, venite a me. Cercano di morderti. Ah, chi è morto? Andiamo. Grazie per la campagna, è stata bella comunque. Grazie per il no, la cosa bella è che è fatta per tipo tre giocatori di livello 1. Questa. Sto scherzando. Sì, vabbè, avete i poteri immortali. Veramente che abbiano degli oggetti magici su di loro, perché sennò non vale la pena. Del... Marco, schivi o pari? Non ho già usato la mia reazione per schivare prima. No, è un round nuovo questo. Ah, ok. Presa l'hai usata e poi. Una volta che ti accettato... Prova a schivare. Prova a schivare il primo degli attacchi. Aspetta. Ah, potenza oggetto, eccolo. Ho fatto 2. Uno ti colpisce al 2. Uno ti colpisce all'1 e uno ti colpisce all'1. No! Ed è morto. E vabbè. Vediamo. E uno ti missa come un maiale. Allora, il primo ti fa 40 danni al busto. Quindi 30 danni, va bene. Il secondo 10 danni alla testa, quindi 0. Quindi 0 danni. E il terzo 20 danni alla testa. Quindi 10 danni. Fatto un cazzo. Come è questa cosa? Ok, nuovo round, Marco. Non c'era potenziale. Dire quello che mi ha colpito alla testa. Vai. Col bastone. Sì. Io ho fatto... Non c'è avuto nemmeno io trovo mai. Quanto hai fatto? Quanto? 3. Prova a schivare. Schiva. Ma dai! Non sto cazzo! Ma Luca. Posso arrivare a dare una mazzata di teste? No, una mazzata a uno. Certamente, sì. Ok. Quale cerchi di colpire? No, niente. Quale cerchi di colpire? Quello che ha già provato a colpire Marco. Ah, quello che ha attaccato Marco, vado a colpire. Cagare il cazzo a combattimento. Okay. Facciamo un po' tutti cagare il cazzo in combattimento. Vabbè. Sei colpito? Locazione? Ah, locazione. Ma questo? 3. Quindi busto? Tiri danni? 6. No! Sì, 6. 6 per cosa dici? 60 danni. Accusa il colpo. 3 al 3. Aspetta, il 3 era busto? Fortunato. Sì. Aspetta, arrivo. Ok. Jump. Io praticamente cioè adesso riesco ad arrivare dentro la casa o arrivo vedi esatto... loro sono fuori dalla casa, vedi la scena, cioè vedi questi quattro tizi che escono e cominciano a mordere Marco. Che schifo. Cioè, tu hai un segno di un morso in testa. Vabbè, tanto non penso di andare a Miss Universo il prossimo anno. Dimmi, Jeff. Niente, io... Ma quindi sono, se, come dire, engage? Sono quattro tizi su Marco. Aggrappati proprio. Grappoli, ok. Ma non aggrappati, che cercano di morderlo. Tipo, Ah, ok, ok. Grazie per la scena. Niente, io... Questa non... Niente, io me ne vado. E ti voglio chiedere prima una cosa. È una cosa importante, però lo so che ci vorrà tempo. Lo so che fai quella faccia, quindi mi scuso con tutto il pubblico. Domanda numero uno. No. Il potenzia oggetti, che c'è scritto, prima che, capito, io citto e dopo tu mi nerfi perché ho citato, c'è scritto che io devo, quella acquista, un per 10 di potenza, se già però ha un per 10. Capito? Cioè deve essere già da impatto. Cioè non è che se io prendo, che ne so, Federico e lo potenzio e lo lancio, ho un per 10, quella è l'idea. Sì. Se io prendessi un sasso o una biglia e la lancio, ho già un per 10 di sì. mio? Sì. Ok, grazie, questo volevo sapere. Allora sì, avrò questo potere da oggi. Quindi prendi il potere e potenzia oggetto. Esatto, volevo grazie. Renderlo pubblico. Volevo renderlo pubblico. Ora che ho questo potere, io volevo chiederti, ci sono dei sassolini per terra? Sì. Prendi sassolini, posso prendere un mucchiettino di sassolini e lanciarlo? Puoi potenziare un oggetto. Puoi prendere un sasso, tipo così, e tirarlo. Ok. Però devi usare il tuo potere come reazione, e quindi perdi un punto fatica, mi fai una prova a fatica. Aspetta, no. Questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere. Stai fermo. Posso dire, ok, in questa azione io potenzio l'oggetto, sì. quindi non prendo niente e sto a posto. Poi posso usare la mia reazione, cioè passo il turno, la mia reazione è lancio il coso. Questo volevo capire. Per non usare il contrattacco come reazione devi perdere un'azione. Ah, quindi posso arrivare là e dire, ah, ok, adesso mi fermo, però dopo avrei due reazioni. In queste due reazioni posso decidere se potete attaccare? No. Allora, stai, come al solito, stai impazzendo. Allora, hai movimento, azione, reazione. L'unico modo per lanciare l'oggetto in un round è usare il potere come reazione e usare l'azione per lanciarlo. L'alternativa è di perdere il tuo turno per potenziare l'oggetto e il turno dopo usare l'azione per tirare il coso. Io però lo farò così. Ok. Potenzio l'oggetto, quindi c'ho con potenzi oggetti e mi fermo. E basta. Cioè mi preparo, però non. Jacopo. Mi dispiace. Anche perché ho paura sinceramente. Picchio quello da non già picchiare Marco e lui. Di colpire se non sbagliato. Ma aspetta, devo tirare l'arma o devo tirare fisico? Che arma è? Dai, basta un po'. Fisico. 6 e poi dopo... Ho fatto 5 con di 6. Colpito. La locazione è un di 8. 7. Ok. Allora, dove sta scritto il mio potere? Ah, eccolo. Danni? 6 per 10, immagino. Ok. Vedi che il tizio... Il tizio cade a terra. Cade indietro o avanti? Cade lì, appoggia semplicemente al ginocchio in realtà. Edo. Allora, vabbè, io ero lì da Fede, quindi vado verso la capanna dove sta. Non ti eri già mosso? Ah, pensavo solo. Vabbè, sì, mi ero già mosso allora, ok. Ok, quindi sei dove è Jump, praticamente. Sono già arrivato, quindi. Vabbè, do una manganellata al primo zombie che mi capita. Quello che stanno... che è tra Jacopo, Luca e Marco o un altro? Ammazza quello! Quello che vedo che è già... cioè, che è già a terra magari, che è già finisco. Ok, vai. Allora... come faccio a terra? Vai. 4. Colpito. Il manganello pure un D8? Non mi ricordo. No, manganello un D6. D6, ok. Locazione? Sì. Devi tirare prima? Ah, no, la locazione che è quello. Un basto. 3? Io non lo sapevo. 3? 30 danni. Ok, quindi al busto 30 danni. Ok, cade a terra totalmente stavolta. E il manganello fa meno danni perché ha una mano sola. Ah, ecco. È giusto anche. Ha senso. Tocca a loro. Allora, quello a terra... male che Gian fa prova, perché sennò... quello a terra cerca di mordere Edo. Provi a schivare o parare. Provo a schivare. Vai. Tira. È una prova di riflessi, vero? Sì. 4. Schivi. Uno esce dalla casa e va su Luca. Luca? Provo a schivare. Io non posso, però l'ho fatto Edo. C'è una cosa di merda. 2. Ti colpisce. Ti colpisce all'8 e ti fa allora 20 danni. Sono morto. 8 che è? La gamba sinistra, nessuno frutta la gamba sinistra. Uno su dà. Jacopo. Jacopo? Io non lo schivo. Gianni. 20 danni all'8. Fa 3, no, fa 2. Sì. Hai schivato o no? Non so, cosa devo fare? Devi tirare. Ho fatto 3 prima. Colpito. Ti colpisce la testa e ti fa 10 danni. 2 su Marco, visto che ormai fa ridere. Fa ridere. Che sfigato. Prova a schivare. Cioè, a parare. Schivare. Vai. 8-2. Colpito. Ti colpiscono al 5 e al 2. Quello al 5 ti fa 10 danni. Braccio destro. Quindi 0 danni. E quello al 2 ti fa 20 danni. Quindi 10 danni. Ok. Marco. Come dicevamo, fa ridere, quindi provo a colpirlo di nuovo. Che altro devo fare? Sì, non finirà mai questo scontro. No, quello più picchiato di tutti, più a terra di tutti. Fatto 2. Colpito. Addirittura, mio Dio. Non ero preparato a questo. Arrivo, di 8. Protezione 6, danni 50. Allora, ho capito la trama di fondo. Ok. Luca? Ce n'è uno a terra su cui state infierendo. No, ne attacco uno in piedi. Ok. Sarà lunghissima. Vabbè, sceglio tu, non lo so qual è. C'è uno. No, no, va bene. Allora, attacco, ok. 5 per colpire. 3 parte anatomica. Mi piace parte anatomica. 60 di danni. Uccia. Ok. Jump, tira. Oh, e mo tiriamo. Mo su chi fa tira? Mirare. Becco Marco e muore. Ma chi cerchi di colpire? io vorrei colpire i nemici. Quale? Qual è quello... Aspetta, chi è che ha avuto più, di... chi è che ha avuto più danni? Quello però a terra. A terra, no, scusami, chi dei miei amici ha avuto più danni? Marco, mi fanno solo tu, Marco, hai avuto più danni? Sì, ma sono a postissimo, cioè... Sei sicuro? Tu Belino. A postissimo. A postissimo. Il classico gradasso. Sì, un graffietto. E vabbè, allora io lancio la pietra di pura energia verso cioè lo zombie che mi sembra stia meglio. Ok. Perché? Vabbè. Sì, tu dici, il danno ne elimini uno. Sì, Marco, tu devi capire la concitazione del... Esatto. Ok, quindi che devo fare? Tiro, tiro tutto. Tirare su riflessi, per colpire. Porca, la vedo malissimo. Puoi usare anche un punto psiche. No, tre, fotte sega. Ho colpito? No, colpito. Mancato. Aspetta, prova a schivare. No, non prova neanche a schivare. Colpito. Tira la locazione. È troppo stanco per schivare. Troppo tardi. Azione di 8. Ho fatto 6. Ok, ma è utilissimo proprio. E quindi, decidi tu, il sasso quando fa? Fa un D4. Vabbè, guarda, pure tanto di qua. Allora, fa un D4 e farà 2. Per 10, 20. No, ciccio, è 2 per 20, 40. Io ci provo sempre, che fa 200 danni, però non so se me lo lasciavi quindi fare. Tutto sto casino per fare 40 fottuti danni, va bene. Jacopo. però aspetta, no, piano. L'effetto scenico è figo perché lui tira il sasso e poi vedete il sasso che si allunga e si illumina. Wow! E poi fa. Appena colpisce. E poi fa. Oh. E basta. Buoni Benji. Luca. Oddio mio, che cagata. Aspetta, come Luca. Dai, tocca a Jacopo. Tocca a me. Ah, Jacopo. Picchio. Mentre vi colpiscono, tutti questi cominciano a fare, continuano a dire frasi sconnesse. Il quinto. Chi è il quinto? No, ero io il quinto. No, era lui il quinto. Vai, Jacopo. Momento. Ma non può essere. Ma che cazzo dite? Non è una cosa di questo tipo. Cioè, il quinto era Gava, no? Jacopo. Non è stato posto da serpente. Ho detto io picchio qualcuno. Ci tira. Sta. Stanno tutti ancora. Ce n'è uno per terra, però magari quello. Per terra voglio finirlo. Posso finirlo? No, non puoi. Il quinto. Quanto 5? Il quinto. Colpito. Locazione? Gamba. Locazione. 5, dai, 7. Che palle. 7 poi. Che cazzo ne so? Gamba adesso. Tiri danni? 30 danni. La gamba si spezza. Oh, almeno no, non va a camminare. Con Edo. Il culo. Allora, si spezza l'altra gamba. Diciamo che quello senza una gamba mo è morto oppure. Oppure no? Ho fatto sega di quello. Solo una gamba spezzata. Quello lascio lì. Cioè, non ci pensiamo noi. Vabbè, allora. Come sei overpower? Ne picchio un altro. Vai, picchiane un altro. Quello che ha già picchiato Luca. Quello a cui ha tirato un sasso. Jump. Che è lo stesso che ha picchiato Luca prima? No, allora ce n'è uno che Luca ha ferito, uno che gli è arrivato un sasso e uno per terra. Ma sono tre, ma erano quattro una volta. No, sono cinque in totale, due non feriti. Ah, che bello. Allora picchio quello che ha ferito Luca. Vai. Perché tu quanto hai fatto danni? 60. 3. Colpito? Sì. Locazione? 7. Ma perché non facevo il sasso dopo il palo? 10 danni. Veramente. Ma hai qualcosa in questo turno? Con la terra prova a dare un morso a Jacopo. Schivi? Schivo. 2. Colpito. Ti colpisce alla gamba destra. 300 danni. E ti fa 10 danni. 2 su Marco. Ti colpisce uno solo, forse. Se attivo il mio potere perdo un punto fatica. Sì. Beh. A meno che non attivo l'altro. E fotti sistema. Aha! Ah, puoi farlo. Marco, schivi? Certo che schivo. Vuoi che non schivi? 5. Colpito. Come no. Colpito? Vabbè. Ti colpisce al 4 e ti fa 20 danni. Quindi 10 danni. Odys, mancato. Picchio quello che ho provato a picchiare prima. Quindi... No, aspetta. Prima tocca a Marco. Col bastone, quello più ferito, che altro posso fare? Quello a terra o quello che ha ferito Luca Edo o quello che ha ferito Gianf? Perché quello a terra. Non ho un vantaggio perché a terra. Se questo. Ok. Sopra. Quanto hai fatto? Colpito? Vocazione 8 danni 6, quindi 60 danni all'8. Cioè lo state gambizzando? sì, ci sta. Dopo gli altri come ha fatto, non mi ricordo il nome della nera di The Walking Dead con i suoi zombie. Luca. Posso andare? Attacco uno che ha attaccato prima. Uno. No, mi conosce. Mancato. Come? Già. Io? Cioè, mancate solo con l'uno e siete riuscito a mancare. Ma io ti dico. Sei fortunato, ricordatelo. Se attivo il potere quello di potenza oggetti perdo un punto fatica, vero? No. Qual è quello di potenza oggetti? Quello che ho usato prima, quella gestasso. Sì. Ben yes. Vabbè, allora evoluzionista, potenza oggetti. Che adesso si chiama così, però. Cosa fai? Prendo il mio coltello che diventerà una spada laser. Diventa un coltello un po' più grosso. Lucidoso. Come se non vuoi. Io Gava non ti sto mai considerando, non so se vuoi fare qualcosa però. Io sono là con l'impacco, che devo fare? Cioè io sento le urla, sento le grida e io sono là. Beh, io non voglio peggiorare la mia gamba. In momenti se io intervengo di nuovo la devo amputare, già la scalata è stata troppo impegnativa per me. Va bene. Jacopo. Picchio ancora il tizio, quindi non muore. Quello per terra? Sì. No, sì. Salla, io sono in attesa che nella casa trovino l'antidoto, lo sai questo? Lo sai che non c'è l'antidoto. Quindi finirà il combattimento, controlleranno di nuovo la casa e le troveranno. Ci sono altri 6 incontri casuali, quindi io non consiglio di controllare altre case. Ma dove hai colpito, Mark? E Jacopo? Ho fatto 6, ho colpito 5, ho fatto 70 danni. Vabbè, sono stancato. No. Mi piace questo modo di ragionare. Mi piace proprio. Quindi okay. non dobbiamo colpire i giocatori, dobbiamo colpire il master. No, ma tanto tranquilli, nessuno di voi morirà in sta sessione. È l'accumulo di tutte le sessioni. L'ha detto con troppa calma. Nella prossima. No, ma neanche la prossima. La quarta sarete così stremati, senza psiche, fatica, avvelenati, mezzi morti, affamati, eccetera, che morirete di stenti. E spereremo di morire. E mi chiederete, ti prego, Salla, uccidimi. Vai, Edo. Allora. Allora, con la terra è morto, abbiamo detto, no? Sì, con la terra è morto. Per scrivere il più. Con la terra è morto. Continua a picchiare quello prima. Il classico. 6. Colpito. Cazzo, vado già per un 6. 3, quindi busto. Quindi uno. 40 danni. Cade a terra. E ti dà un morso. A me? Sì, mentre cade. Provi a schivare. Ma veramente? Che cazzo di fortuna c'hai? Posso provare a tipo parare col manganello? Certo. Chiaro, sì. È chiaro che sì. 5. Pari col manganello. Sì. Lui morde il manganello e poi lo si stacca subito. Dal manganello. Cioè, si stacca subito dal manganello? Cioè, sì, prova ad attaccarsi, poi sente il manganello e stacca la bocca. Ah, ok. Due su Marco, soliti. Vai, ci sta. Vai. Provi a schivare. Già ho pensato, provo a parare col bastone allora, visto che... Va bene. Visto che non mi ricordo le regole. Ho fatto 5 per parare col bastone. Colpito. Ti colpisce al 2 e al 5. Ok. Al 2 ti fa 20 danni e al 5 te ne fa 40. E quindi ti fa 30 e 10. Quindi 40 danni alla fine. Ci 40, 20, dai. Si accumulano, eh? Si accumulano. Ok, sto iniziando ad accumulare un po' di dolore. uno su Luca. Ti devo dire se raggiungo delle certe soglie o... Sì, metà. Ok, quindi sono ancora tecnicamente tutto sopra metà. Ok. Luca, schivi o pari? Schivo. Vai. 6. Schivato. Marco, tocca a te. Lo sai, cioè... Vai. L'ho già ferito. Sì, come da 4 per colpire. Colpito, locazione? Non è quello se tu pari con un arco. Prendi. Se fai, diciamo, un'accettata con un braccio. Scusa, ma allora sei un oggetto, okay. Esatto. Quanti danni? 60 danni. No, proprio basta. Si rompe, si spezza la gamba. Scusami Salla, ma se manca parato col bastone, non funziona il bastone, che cioè un colpo non praticamente è fallito a parare. Non è riuscito a parare. Ok, non avevo capito. Luca. Allora, ne colpisco uno, scelgo di farlo. Te l'ho già ferito, immagino, per terra rantolante. Non ne colpisco uno perché ho fatto uno, quindi niente. Non ne colpisco. Ehi, Jump. Allora, io, visto che mi piace stare in range, non sono il tipo da stare proprio in mezzo, che c'è un po' di ansia. Quanto dista da me il tipo più vicino? 4 metri. Ah, figa, sta là. Figa. Figa. Ma boh, posso attaccarlo e disingaggiare? Figa. No. Che quando sembra nerfare mi stai. Vabbè, mi avvicino. Ma il tipo è già in difficoltà oppure lo vedo al massimo della... Ci sono due tizi su Marco, di cui uno per terra. Ok. Un tizio su Edo. No, scusa, due tizi su Marco, un tizio su Edo per terra, ma sono tutti vicini. E un tizio su Luca. E ce ne manca... E un altro che sta full vivo. E basta, allora è morto. Ok. E vabbè, io... Qual è quello che sta più male? Quello per terra. Lo ammazziamo. Tipo, ha la gamba spezzata e ha un osso che gli esce dalla gamba. Sì, dai, l'ammazziamo. Lo killo. Vado per colpire allora. Vado. Fumble. Ok. D6, giusto? Fumble. Vabbè. 2. Colpito. Serio? Top, sto male. Vabbè, allora, locazione. Se non mi ricordo male. D8. Roll 3. Giusto. Danni? Danni? Mi hai fatto potenziare il mio coltello. Quindi decido. Allora, che dovrei riesco aggiungere un D6. Il tuo coltello fa un D6 più un D6 per 10. 2 D6 per 10. Ok. 2 D6 per 10. Sti cazzo. Allora, 2 D6. Se avesse potenziato il bastone, farebbe un D8. 70. Muore. Cioè, se avessi potenziato il bastone, era il macello. Facevi un D8 più un D6 per 10. Sto male. Ma basta star male. Tocca a Jacopo. Attacco uno di due e poi addosso a Marco. Ok. Due. Quanto hai fatto, scusa? Due. Colpito? Sempre in generale, ti aiuterò io. Se c'è l'alto è 4 e faccio del tanto danni. La gamba. Il sangue. Tanta danni a un braccio? No, al busto che è un buon 5 minuti. Al busto? Mi vuole freccere. Mi vuole accendere, no, mi vuole perci. Scusate. Ok, cade a terra. Edo. Quindi hanno detto che tre sono crepati. Allora, due sono morti. Uno è per terra. Uno ha una ferita da sasso. Il mio l'ha ammazzato. E uno è sano. Ma io l'ho ammazzato il mio? Quello che ho colpito? Direi che è una ferita sasso. Dove si è stata l'isola? Cerco di finire che si può tentare quello a terra. Ancora non sta morta. Chi è morto? Con un uomo chiaro in fronte. Che non ha due. Colpito? Non è che scrivete questi che mi schiavano mondo per il cazzo. 8 locazione, quindi di una gamba. 30 danni. Adesso so, fai che ho tipo il manganello esplosivo e gli esplode la testa. No, ma più veloce di quella nave su Star Wars. Esatto. Uno su Marco. Vai. I'm loving it. Pari? Col bastone. 6 per parare col bastone. Parato. Voglio questo bastone. Uno su Luca. Mancato. Paro col bastone. Mancato. Mancato sick senza che parlo. Uno su jump. Ci sta. Che vabbè, firma. Quando hai fatto? Mi hai colpito? Schivi o pari? Ah, quindi mi hai colpito. E niente, proviamo a schivare. Uno. La vedo meglio. La vedo meglio. Esatto. Per schivare. Cioè, vabbè, non so che dire. Quanto hai fatto? Potessi no, per essere se ho riuscito a fare. Ti colpisce, ti colpisce al busto e ti fa 10 danni. Fa tutti bene. E l'ultimo, come scusa? E l'ultimo su Jacopo. È dottibile, si dice. Io lo schivo. Ti la colpisce? No, ma lo schivo, dai. Che? Niente, vai, ho fatto uno. Ti colpisce al busto e ti fa 10 danni. Marco. Vai, che fai? Attacco con la terra. No, no, no. Ah, sì, ok. No, colpito. Di pure. Colpito, colpito, colpito. Ma anch'io ho capito così. Cosa? Sempre alla gamba e sempre 60. Locazione 7, danno 60. Sempre quello, no? Si rompe una gamba. Sono morti, tornano su. Luca. Di cosa sarà? Bicchio. La scena, diciamo, 6, 5 spigliate di mezzo. Allora, esattamente così. Sono 5 per colpire. Vabbè, è molto reale però. Parte anatomica 8, danno 60. Ne cade a terra una merga, ambizzate tutti come. Solo che siete voi con i pugni. Jump. Ma quella terra sarà del morto. Allora, ce n'è uno a terra. E ma quello che ho colpito prima, ancora non è morto. Sì, è morto due turni fa. Due sono morti. Sì. Ah, ok. La quello che ho colpito col sasso. Finisco il gioco iniziato. Raga, vado in nulla. Allora. 3. Colpito. Allora. 6. E 2. Palle. Poi. 70. Vabbè, gli tagli un braccio. Ci sta proprio. E Jacopo. Anche oggi ho preso il mio punto extra, perché oggi ogni volta che ho un braccio è un punto extra. La cosa più bella è Gava che è seduto lì e sente e lui è lì così. Salla, salla. Ma quanto tempo è passato dall'inizio, cioè da quando mi hanno lasciato fino adesso? Sarà passato un minuto, neanche. Neanche 5 minuti. 40 anni in busto, Salla. Quanti? 40 anni in busto si piglia. A quello quello per terra? Sì. Muore. Oh, la Stitter. Sta a fare la Stitter. Edo. Non stirarsi, bastardo. Vabbè, per un minuto che mi riposo, Salla, che vuoi? Sì, sì, no, non c'è problema. Ma quindi tu ti prende più esp perché la stitta? No. Cazzo, lo sapevo. Poi scusa, il tempo del racconto è più lungo del tempo della storia. Non lo piglio, manco per il cazzo. What the fuck? Uno. È impossibile, non ci credo. Puoi usare l'app per cortesia, una qualunque. Cioè, è statisticamente impossibile. Se scrivetela tu. Anche Gav ha fatto l'app per i danni. Sì. Già, ma pure io, perché sennò mi sento escluso in questo club. Jump, schivi o pari? Io? Ma che cazzo vuoi da me? Madonna, lo schivo. La vedo male. La vedi quindi pari? Oppure ti vedi tante pari? Sì. Sono fatto 4 e quindi colpito. Mi colpisce. Colpito al boost? Ci sta. 10 danni. Ci sta. Da... Ci sta uno su Odys. Indegno, oddio, mi fai Antoine? C'è una persona che si chiama Antoine. Oddio, ma ce l'avevi in mente un Antoine? Perché ce l'ho? Odys, sì, attacca sta roba. No, ho fatto uno, non colpito. Devi schivare o parare, tesoro. Paro. Fatto 5. Uno zombie ti si attacca al 5. Non so, mettete ora a caricare. Ah, ma 5 non passa, caricato. E ti fa 30 danni. No, no. No. 30 danni al 5, va bene. Ma quindi non basta per parare? 5? Jacopo. Comunque sei uscito. Schivo. Ah, tanto è uguale schivare. 5. Colpito. Ma culo. Ti colpisce al 5 e fa 20 danni. Ah, considerate che loro tirano un D8, quindi se fanno 7 o 8 vi colpiscono quasi sempre. Ah, Marco, ti stanno colpendo o devo colpire? Devi fare il tuo turno. Ok, perfetto. C'è uno ferito e uno sano. E uno che è morto adesso. Dammi un secondo, sto controllando una cosina veloce, dammi un secondo. Vabbè, ci ho pensato in ritardo, colpisco con il bastone. Quello ferito, 4. Se non avessi ammazzato il tipo all'inizio... Oh raga, non so se Marco mi ha già chiesto per il 29 aprile. No, sei andata a giocare a tavolo, ci stai ancora? Locazione 7, 80 danni. Vabbè. Cioè, questo qua ha un braccio tagliato, una gamba rotta e un'altra gamba rotta. Ma è vivo. Ma è vivo, sì. È tipo... Luca. Cioè, mi sto vedendo uno snervo. Almeno possiamo ammazzare almeno quello per questa sessione. Quello. Beh. Luca, cioè andiamo a infierire su di lui in modo assurdo. Sì, è orribile. Luca. Ma se fosse una persona normale e non uno zombie, con gli stessi danni, visto che avevo maciullato un braccio, perché ovviamente c'ho un coltello, quindi ha abbastanza senso, sarebbe morto? Probabilmente no, ma sarebbe svenuto. Luca, attacco. Uno, non colpito. Giampo. Il dato della morte. Giampo. Colpisco. Quale? Quello senza un braccio e due gambe o quello sano? Quello sano, dici? No, se io gli infliggo su quello. Vado, cerca e distruggi l'ultimo. Cioè, voglio proprio aspettarlo io perché mi sono rotto in cazzo una vera. Non può passare la gente. Senti, quello. Oggi. Porca puttana, magari ti ho visto. Non mi devo parlare. Adore. Colpito. Colpito? Certo, colpite con lui. Tutto tranne che con uno. No, perché stavo in base di solito. Mi sembra che sono... No. 6, perché faccio sempre 6 quando non serve a niente, giustamente, nella locazione. Faccio 2 di 6. Sto male. Quindi, se faccio 10, ho fatto... Che c'è? Basta star male, Giampe, per favore. 100. Quanti? 100. È morto. Diobo. Jacopo. Yeah. Ce n'è uno solo. Cioè, la scena è che lo taglia a metà, giusto? La scena è che tu gli dai un colpo fortissimo, tipo, a questo braccio qua. Poi tiri su e gli fai un taglio qua e muore. Salla si pigliava 70 danni al busto quell'altro. Va bene. Cade a terra. Edo. La stitta sta merda. Faccio l'uno, aspetta, 5, assolutamente. Sentite? 7. 20 danni. Schiare. Muore. Una schicchera sull'arco. Ok, siete in mezzo a un bagno di sangue. E avete subito parecchi morsi. Molti di voi hanno subito più di 40 danni, vero? Decisamente, sì. Io no, solo venga al busto, quindi sono solo i graffietti. Aspetta, intendi più di 40 sommati oppure in una parte sola? In una parte sola. No. Ok, no? Sì, decisamente. Io no. Ma posso, solo quello di drogato, se ne frega. Già l'ho trovato prima. Marco. Dimmi. Ti piace il connettore Z, vero? Mi piace già un pochino, mi piace ancora di più. Sì. Dipendenza media. E mo stasera si va a dormire con lo Z. Intanto attiverei il mio potere per recuperare almeno 50 ferite al busto. Oh. 50 o 60? Ma che faccio? Come? 50 o 60? No, prendo un punto fatica se faccio 60. Sì, per quello te l'ho chiesto. Però 50. È bellissima, ti leggo la dipendenza media perché fa troppo ridere. Fantastico. Allora, Liro è dipendente da una determinata sostanza, che in questo caso è il connettore Z. Allora, hai due possibilità. Se resti per più di una settimana senza soddisfare la dipendenza, perdi un punto psiche. In realtà hai una possibilità facendo una prova di stabilità mentale. Se invece ti fai, aumenti di un grado la dipendenza. Se non la soddisfi per un mese di seguito, diminuisce di un grado. Finito. Il mio personaggio è molto contro le droghe, però. Sì. Però la prossima è maggiore e poi c'è superiore. E poi hai presente quegli zombie lì? Ecco. Ah, bene. Ok, siete in mezzo a un lago di sangue e potete o chiuderla qua o vedere il villaggio in generale. Io adesso cerco nella capanna dove c'erano i tizi. Cosa trovo? Soldi? Vedi un sacco, no, vedi un sacco di roba messa sotto sopra. Un sacco di roba? Medicine? È un riportatore? No, sono tipo alcune farine e verdure ormai marce. E c'è oggetti rotti, vasi rotti, Ci sono vestiti, Salla, o sieri? Sì, mi sono vestiti come la vedo. Attenzione, questo è il primo studio tipo Giorgio Armani. Cioè, tutti vestiti. No, per capire se sono tipo dei turisti. Ma che turisti, no? Non sono turisti, vestiti come? No, no, no. Non posso nascere le persone. Chi quindi tipo roba di medicine, cose, niente. Non posso nascere le persone in isola. No. Io esco e vado in una capanna adiacente. Boom, così, a sick. Non e c'è niente, cioè c'è la stessa scena. In più però c'è un corpo sdraiato. Oh cazzo che ci vado! E mica... Metagaming. Allora hai ragione, perché non c'è. No, può darsi che te l'abbiano detto, però. Vabbè, sì, allora, prima ovviamente sparo di tutto. Quindi so che c'è questo, ok? Quindi so che si rianimerà. Vedo altri corpi nell'altra capanna? No. Basta non toccare il corpo. È come quando giochi a The Last of Us. Ti passi vicino e stai a posto. E, cioè, cosa vedi nella capanna? C'è qualcosa? Sembra la stessa situazione? Allora, secondo bene, vedi un corpo orribilmente deturpato. E perdi non me ne frega il corpo, non lo guardi il corpo, guarda altri oggetti. Perdi un punto psiche. Lo sapevo, no! Se lo guardo, c'è il corpo, non ti vedo, c'è Dice che abbiamo appena ammazzato di botte. Sì. Sembravano indigeni tipo quelli che avevo visto nella capanna o? Sì, sì, sì. Sembravano okay. Tipo quelli. No, Jamf comunque non lo perdi perché Marco ti ha già detto che. Che altro hai visto ben di peggio questi che abbiamo massacrati. Ma io abbiamo maciullati. Ma io ho dato un po' psiche nel vedere gente maciullata. Oppure perché ho fatto. Vabbè, un. Solo perché ho maciullato un braccio, quindi mi merita il mio punto. No. Sarà fatto adesso. O poi ci provo sempre. Comunque potremmo anche pulire questa zona e metterci qua. Sì, ci sta. Prima che respawnano. La grotta? Ah, la grotta. Fate insieme della grotta. Dobbiamo trovare qualcosa da vedere. Hai l'idea di chiudere la prima entrare nella grotta? La grotta sembra proseguire molto in profondità nella montagna. No, è solo un'apertura. Ah, no. Allora andiamo, sì. C'è dentro. Ma non possiamo riaccettare le capanne? Dobbiamo cercare. Altri 8 zombie! No! Allora, io vorrei cercare tutte le capanne. Nella grotta vedete delle incisioni. In ogni capanna ci saranno degli incontri casuali. Quindi, se non vuoi combattere con 65 miliardi di zombie, non devi cercare nelle capanne. Non c'è. Beh, magari hai anche tu. Sei anche tu avvelenato da un serpente. Cioè, non necessariamente gli zombie. Ci sono ragni velenosi, ci sono trappole, c'è un po' di tutto. Ma che cazzo di capanne sono, scusa? Le capanne di Allora, dicevo che è fatto, ci sono delle incisioni e iscrizioni. Dove? Nella grotta. Ma in tutto questo cavolo che sta facendo? Ci sono delle scritture. No, mia, sono venuti a recuperarmi. No, che Federico? Hello! Ci sono dei disegni, dei pittogrammi e delle scritture. Ok. Le capisco? Non so. Puoi capirle? Posso fare un tiro di mente per provare a decifrarle? Puoi o... provare, sì. Se riguarda la scienza informatica. Conoscenze attualità? Ovvie attualità. No. Fatto 4. Non ti so molto chiare. Ok, ma tipo nei disegni cosa c'è? Ci sono tipo gli uomini a caccia come nelle grotte? Ma in film, negli Hobby, posso averlo visto in Angeli e Demoni, tipo qualche film di Tom Hanks, qualcosa del genere? Tira un D6 di mente e non rompere il cazzo. Bella sta lag. Inquietantissimo. Non ce la possiamo fare.